Anche la nostra trasmissione Mi è arrivata la notifica. è in Sei qualche davvero modo siamo in una incredibile. fottuta diretta. Questo non è per i bambini, l'ho specificato su YouTube. Ma Allora, monetizziamo, ma dai. benvenuti, bentornati, bentornati da moltissimo tempo per chi non credo a nessuno, ma chi ci segue su YouTube. Perché oggi siamo su YouTube? Perché non va Facebook e tutti gli altri social di Zuckerberg? E quindi siamo Sì, tornati a una nostra vecchia passione, dal vivo. ma lo posteremo poi anche su Facebook, sia di Tycoons & Dragons che di RGDR. Voi sapete che noi siamo Tycoons & Dragons e RGDR. Questo era il canale di Tycoons & Dragons e RGDR, o meglio, no, è di Tycoons & Dragons, dovrebbe tornare tale anche se aveva preso il mio nome. Comunque, se in qualche modo ci state seguendo, benvenuti a questo 79esimo episodio della Maledizione di Katta, che è, se non dovessi sapere, è la nostra campagna di Dungeons & Dragons quinta edizione. È ovvio che io sento il ritorno di qualcuno, però. Io no. Anch'io. Ah, Anche forse qualcuno sta tu? guardando noi in diretta? Forse Vez la sta guardando e quindi si sente. No, possibile. No, regà, la diretta non è così, No, ecco. no, no. Allora, vabbè, comunque ci siamo. Non lo Tra sento l'altro, più. non mi fa quella cosa Sì, era fastidiosissima colpa che mi. mia, lo sto guardando io. Ok, vabbè, ottimo perché comunque era quasi in contemporanea. Quindi, va bene, chissà, magari passeremo a YouTube. Chi può dirlo? 79esimo episodio, la maledizione di Katta. Buon San Petronio a chi ci sta seguendo in diretta. Come saprete, forse San Petronio non è il patronio di Bologna, non di Porto Maggiore. Ma no, questo è Anche normale di perché a tavola, Porto se per Maggiore quello. si festeggia la festa dell'agnello, come tutti sanno. Neanche di Padova, se poi Allora, vogliamo vediamo. essere Allora, chiari. no, qualcuno mi ha cambiato il nickname, quindi grazie a chi l'ha fatto. Prego. Arrivo. Presento gli ospiti. Oggi direi che, visto che Arce ormai l'abbiamo Grazie, grazie. abbandonato, l'abbiamo salutato, ma è sempre i nostri cuori, siamo a formazione completa, quindi siamo io, Andrea Giacomo Vecchi, Stefano Gamberoni, Romanus Jacopus, va bene, Edoardo Saladini, Giulio Bosi, Marco Bosi e il nostro master, il King, Enrico Cattabriga. Ok, Da 79esimo Barcellona. Ah episodio, no, è tornato, c'è è tornato, è una tornato. sigla? Ba funziona il bardo alla fine. Allora, Sì, ma c'è il comando diverso, devi qual è? vederlo. Come si chiama? Vai sempre su bardo, però i comandi, come vedi, sono diversi, non è più. Play, mae. Se me lo carica, poi te lo dico. Vabbè, come. Vedi lì. Dovresti vedere le ultime che abbiamo fatto partire. È tipo Botify, Play, dollaro, YouTube. Botify, Play, dollaro e YouTube. poi YouTube e il titolo E della ci roba. metti il link. Copia e incolla, copia e incolla. Ok, sembra sia funzionato. Ottimo, Sì, abbiamo anche la esatto. sigla, fantastico, fantastico. Allora, questo vuol dire però che qualcuno deve fare il riassunto. Chi si accolla a questo, direi onere, ma è forse più un onore. Era una battuta la mia, l'hai fatto davvero, bravo. Eh beh, ho scelto appunto questo a parte per il fatto che era il vostro tavolo. Raffigura anche questa immagine molto crepuscolare che si adatta alle cripte che state visitando e si adatta anche al tema horror perché, come ho anticipato al caro Sceo, la copertina di questo album venne disegnata da niente poco di meno che Giger, ovvero l'inventore di Alien. Almeno del Ah, design dai. da cui Ridley Scott poi prese. Quanta cultura Tycoons and Dragons. Mamma mia. Provo io a fare il Incredibile. mio ascolto allora. Capito, noi che buzzurri arriviamo al matrimonio. Cazzo è sta roba? Non conosce nessuno, minchia questo. Allora, questo riassunto, chi è che lo fa? Sceo. Abbassa un po' Vabbè, il sai, il volume del protagonista tuo eri bardo, tu nel Vez, altrimenti finale, si sente sennò. solo la musica e non la nostra voce. No, basta che lo Non è abbassi. più tu. Buono. Tu lo devi abbassare, altrimenti in diretta non si capisce quello che diciamo. Ma era al 48%. Ok, Abbiamo iniziato facendo un riposo, credo. Passarlo, però. Attenzione, mio fratello fa adesso. Sta succedendo? YouTube l'ha scatenato. Dai, Marco, ti alzo poi anche il volume. Poi mentre facevamo il riposo, K ha tirato bene o male, e sono arrivati dei servi a inquisire sulla situazione, e che sono stati brillantemente sviati da un'illusione che ha fatto qualcuno. Mamma mia. Ok, è vero che i riassunti di Marco sono pochi, ma sono sempre molto di parte. Poi potrebbe dire i riassunti di Bosi, per stare un po' più sul generico. Però c'era anche la rubrica il riassunto di Giulio, che era sempre una cosa un po' strana. In cui c'era Ema. Sì, è vero. C'era il riassunto mio e poi c'era il riassunto che poteva ascoltare anche Ema. Sì, esatto. Questa trasmissione non è adatta a Ema. Poi una volta sventato il pericolo siamo andati allegramente a inquisire dalle tombe, e dopo un po' che osservavamo Vezius, che in questo caso è Vardistan, decide di rubare impunemente l'armatura a un povero cadavere. Non è andata così. No. Punto di vista. Se per una volta il gioco di ruolo ha avuto un suo apice, non è che dobbiamo sminuirlo. Ha iniziato a depredare i cadaveri. A quel punto gli altri sentivano un po' in inferiorità, perché anche gli altri sarebbero malvagi. Ha iniziato a rubare anche loro dalle tombe. Abbiamo preso l'esempio dal nostro leader, non è che aprire tombe a caso, togliendo le cose. No. Poi c'è stato qualcosa riguardo. A caso, però, io tipo non l'ho aperto. Si è aperta lui e mi ha fatto capire che. Sì, vuole... il cadavere ti ha dato la sua armatura, secondo me. Praticamente sì. Voi siete messi a girovagare, a questo punto ho detto rica basta. Il fratello era la tomba del fratello di Strad che ti ha donato la sua armatura. Sì, perché ho detto che avrei vendicato. Oh, bravo. Mentre depredavamo altre tombe, ad un certo punto qualcuno ha trovato uno scettro fallico. A quel punto mi ha riso per mezz'ora, poi Vezius ha fatto qualche dito medio e se n'è andato dietro a una barriera impenetrabile per tutti, tranne lui. Questa parte del riassunto è perfetta, secondo me. Questa è stata una bella rivincita, onestamente. Oddio. Ah, ci abbiamo depredato qualche tomba, cosa abbiamo raccolto? Io un paio d'ali. È vero. Le ali. Fai un bellissimo zaino con un parapendio. Con le ali. Io ho una cosa che non so usare. Esatto, un moschetto con la polvere da sparo. Ah, sì, è vero. Una roba che nessuno di voi ha mai visto prima, e quindi puoi provare a fare degli esperimenti per vedere come funziona. Ah, no, aspetta, un dettaglio carino era la tomba di Giulio, che c'è, nel senso, una tomba dove Giulio ha visto Giulio. C'è abilità. Ma grande, sei imparato a fare questo grande mago. Voi che avete visto la diretta vedevate bene o scattoso? Perché mi dice grande allenamento. La risoluzione corrente non è ottimale. No, si veda bene. In questo momento ci sono io che gioco con la allora, devi cambiare computer. La risoluzione corrente non è ottimale. No, va bene. Siamo un po' pixelosi. Tra l'altro pochissimo ritardo. Non so, sì, ma è meglio così, perché così va più fluidamente, tanto anche se si vede un po' sfocato, non è che dobbiamo streamare un videogioco. Comunque 720p, quindi non è che sia proprio una merda. No, ma infatti le scritte si leggono. Ho capito. Cioè è meglio di quella di Facebook comunque. Ah, sì, certo. Esatto, infatti è quello che volevo dire. Cioè 60 frame e 720, più di quello cosa c'è, 1080. Perché sì, 4K, sì. Chi cazzo lo guarda, anche 2K. Aiuto, aiuto, stavo guardando col telefono in cuffia, quindi sento voi e la diretta, aiuto. Scusate. Troppe cose per la mente semplice di ma c'è anche tipo il coso, la chat, sì, ti stiamo insultando, sì, da quando è iniziata. Che tra l'altro tu non vedi... la gestisco da Hobbs, bellissimo in realtà. Ah sì, da Hobbs vedi la chat, wow. La vedo, non so se posso chattare, però quindi dici che è un programma, che è una piattaforma fatta apposta per i video, meglio di una piattaforma. Quindi posso scrivere F e varie vari cosi sal, puoi anche dirle in realtà. Stupido, basta che non dici la parola con la N e nessuno si lamenta su YouTube. Napoletani, esatto. Napoletani. E basta che non dici l'omino con i baffi che comandava Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche la Merkel. E non parli di tipo mettersi cose alla tempia e esatto, premere le cose. La... Quello va tutto. YouTube poi... La S parola è... Esatto. È quella più segata di tutte. Sì. Mm-hmm. Sì. Più che altro per fortuna non c'è Arci, perché il nepotismo è tipo l'unica cosa che viene bannata. Ma chi è Corno Novano? Io. Catta. Brenta l'Azzurri. Quello è il titolo dell'album. Okay. Comprate nuovi computer, la vita vi sorriderà. Cosa? Quante verità. Non avevo detto che c'era un messaggio promozionale, non l'avevo detto, però non è specifico di quale computer. Va bene, dai. Ah, ed è evidenziato. Io sono passato, quindi. Giusto? Raga, io ve lo consiglio comunque, il loop in cuffia è bellissimo. Sì, tu sei l'unico che è passato, perché l'altro che ci ha provato è tornato al punto di partenza. Esatto. Sì, esatto, è una sorta c'è questa coltre di luce. E quali erano i genitori, o sbaglio? Le bare. Sì, i genitori. Ci sono due bare sui quali leggete i nomi di Regina Ravenovia van Rohejen e Re Barov von Zarovich. Era passato anche l'animale, ma anche il mio cubo dall'altra parte. Se una creatura di taglia piccola può infilarsi strusciando contro la parete per passare dietro alle due statue. E ti stava disturbando in modo che tu non riuscissi a fare un riposo lungo mentre tutti noi qualcuno ha uno specchio per provare a deflettere il raggio. Perché qualcuno ha distrutto lo specchio all'entrata? Chi era? Vardistan, forse? Che specchio? Quello di strada. Ma dipende, è una cosa a raggi, è una cosa come la vediamo. Specchio. Allora, la coltre di luce, sì. Da ogni alcova praticamente ci sono queste statue di bronzo di guerrieri che impugnano delle lance, e c'è questa, sì, tenda di luce di un colore azzurro, blu tenue, che fluisce attraverso le due alcove. Se io metto le spade dentro sta cosa, tra le due spade c'è comunque la tenda, o si crea un gap? Cioè passa la materia solida? Cioè tu dici se riesci a creare un'ombra con una barriera? Possiamo fare la prova con una biglia? Avevate già lanciato una cosa dall'altra parte. Hai visto che gli oggetti passano. Però dico, il mio punto è hai la cosa che passa, metto una spada da una parte, una spada dall'altra, a vedere se si crea un buchino in mezzo. No, è come se tu... È come se... se attraversassi una... È come se fosse una tenda. Cioè sì, io o una tenda o boh, un... Un muro fluido. D'acqua. Esatto, un muro d'acqua, sì. Ok. Perché sennò potremmo portare, provare che... con delle lapidi. Però, se dice così. No, ma cosa volete fare? Vogliono raggiungerti. Vabbè, ma io posso fare intanto qualcosa? Sì, tu hai la tua stanza dove sono sepolti i genitori di Strad a tua completa disposizione. E la suite tutta per te. Beh, voglio... La... Okay. Voglio riposare. Che adesso si dà la... Si può dire necrofilia su YouTube. Ottima idea. Ah, aspetta, no, aspetta, gli oggetti passano, quindi possiamo usare le frecce contro Vez. Però non lo vedi. Dopo un po' la... Se tiriamo tutti, è il posto migliore, questo, ma io rimango qua. Possiamo dare fuoco della roba e buttarla dentro alla coltre. Ok, sì, sì, ci sto. Allora, ma da tomba è immersa nel completo silenzio. A parte quello dei tuoi compagni che fanno rumore cercando di passare attraverso. Esci del coraggio! E ci sono le finestre che danno dalla parete opposta della coltre, che dominano la parete. E sono decorate con vetri colorati e permettono a un pochino di luce di entrare. E di illuminare le due bare che riposano appoggiate sopra delle lastre di marmo bianco. Quella contro il muro a nord c'è scritto sul piedistallo il nome del re Barov von Zarovich, e quella contro il muro a sud il nome della regina Ravenovia van Rohan. Il soffitto è una volta di alta 30 piedi ed è decorata con un bellissimo mosaico dorato. Le finestre sono così sporche che da fuori, che da sembrare quasi opache. Non si aprono, ma ti sembrano molto fragili. Se guardi di sotto, si vedono praticamente la valle sottostante ed ha su uno strapiombo di praticamente quasi 1000 piedi, 900 piedi fino alla base del pilastro di Ravenloft. Può uscire, ma... posso dire che se vogliono posso entrare da là, però gli altri se desiderano. Soprattutto Giulio, secondo me. Beh, è vero. Uno che ha un buon tiro a scalare potrebbe farcela. Esatto. Bene. Oltre appunto alla vetrata, il mosaico sul soffitto e le due tombe, non vedi altro. Guarda se le statue hanno un interruttore o no. Nessuna iscrizione? Le uniche che leggi sono quelle dei nomi dei regnanti, dei nobili contenuti nelle bare. Beh, qua ci vorrebbe un uguale, perché tanto faccio cagare in ogni caso, un investigation per vedere se c'è qualcosa che non appare a, diciamo, a prima vista, giusto? Prego. Ok. Beh, 16, dai. Ok, ti metti a cercare nella stanza e non vedi altri passaggi segreti, porte nascoste, cose del genere. Apri le due tombe. No. Magari c'è l'armatura. Ok, non trovi altro di interessante. Posso mandare in Nobuko a vedere dentro le tombe se c'è qualcosa o sono coperte? Sono chiuse, non è abbastanza forte per riuscire ad aprirne una. Sottovaluti quel gufo che ha già ucciso un vampiro. Hai ragione. Ma queste sono tombe, non sono vampiri. Quanto lontane sono dall'entrata? Mm-hmm. Dov'è che sta? Palla di fuoco. Sono l'incantesimo 5, di un mago 10, 20, 30 piedi. Se ne lanciate uno lo scoprite. Però se ci arriva addosso la palla di fuoco da dietro farebbe molto ridere. Se arriva Bardistan fa ancora più ridere. Non sprecherei una palla di fuoco così poi. Va bene, io dopo che ho visitato la stanza faccio una piccola preghiera per omaggiare comunque i morti e poi ritorno dagli altri. Ok, vedete Vardistran che attraversa la coltre azzurra. Cosa hai trovato, Vardistran? Cosa c'è? C'erano le tombe dei genitori di Strad. Ah, hai dissacrato altre tombe, cosa c'era dentro? Ovviamente non le ho aperte. Non ti riconosco. I morti devono riposare. Fortunati, questa terra pare essere quasi una, diciamo, un mondo di benessere alternativi. Vi invito però a riflettere sul fatto che voi non avete avuto possibilità di attraversare la coltre. Oh no, mi sono perso due cadaveri. Come farò a vivere? Non per quello, ma qui state perdendo qualcosa di molto, molto più importante. Perdendo voi stessi. Ma non indugiamo oltre. Abbiamo del lavoro da svolgere. Io ti ricordo che non ho i bulbi oculari. E quindi non puoi neanche alzare gli occhi al cielo, Giulio. Esatto. Va bene, dove andate? Cosa dobbiamo fare noi? Ci siamo riposati, adesso dovremmo in teoria fare un piano, no? Ma basta con questi piani, andiamo su, quando si è sposato lo uccidiamo, o prima che si sposi lo uccidiamo. È vero, qual è sì, il piano? Questo è quello che faremo ovviamente, però dobbiamo far finta di fare un piano. Sì. Voi vi eravate, il vostro piano appunto era quello di andare nelle catacombe per cercare l'armatura magica. No, non sapevi neanche se ci fosse l'armatura. La tomba di strada. La tomba di strada. Perché voi sapete. Ma non abbiamo finito di. Un vampiro esplorare. Quando muore torna alla sua tomba. Deve tornare più in fretta possibile alla sua tomba, dove poi inizia a rigenerarsi. Quindi se la trovate, voi sapete poi dove andarla a cercare. Ah, un'altra cosa che avevo dimenticato di dire è che non c'erano le tombe delle mogli che abbiamo ucciso fino adesso. No, perché sono progenie. Ma votavano anche a Porto Maggiore oggi. Sì. Cosa hai votato? Tu voti là, ovviamente. Che cazzo ha vinto? Cioè, Gabo. Cazzo, se si candida un pakistano vince a mani basse. Non ho idea di chi abbia vinto, perché la lista è energie per Porto. Elezioni Porto Maggiore. Perché farle? Punto interrogativo. I suggerimenti di Google, perché farle? Perché tutto sommato ha senso farle? È divertente perché la destra si è presentata divisa. Ha preso il 28 e il 26, 27. Dove? Porto Maggiore. C'era quella civica, credo. C'è uno dei comuni dove avrebbe vinto, ha deciso di non vincere per rispetto ai colleghi. Porto Maggiore, cioè. Comunque, dicevo, Katta, non avevamo finito questa stanza, cioè la parte più... No, c'è la parte più... Siete più arrivati giù. A metà. Lì dove siamo arrivati lì, ok. Allora sì, proseguiamo esatto. Verso sud. Sarebbe sì. Curioso se la lista che ha vinto fosse anche quella di centrodestra. Quante liste sono tutte di centrodestra? Questa. Va bene. Suppongo alla fine che... i pakistani non possono votare, quindi... Katta, non spoilerare, non andare più giù. Lasciaci tanto avete tutti i permessi da master, potete vedere quello che vi pare. Sì, vabbè, però non lo uso, mi piace. Allora, quello che andava davanti a tutti era Garrosh, perché ci vedeva meglio al buio. Sì, questo ho deciso quando io non c'ero, ma continuiamo così, va bene. Sei in disaccordo con questa decisione? No, va bene, va bene. Allora, bene. Vai, abbiamo fatto perché c'erano ovviamente... quei nemici nei bordi. Come? Non va davanti perché vede nel buio, ma perché ci sono i nemici nei bordi, così se picchiano qualcuno, picchiano loro. E anche. E ovviamente, se vi va, passiamo tipo dal centro, do un'occhiata un po' ai nomi. Così facciamo un giro in centro. Do un'occhiata ai nomi, magari c'è qualcosa che attira la nostra attenzione. La riga... C'è un altro inventore, tipo. La riga al centro l'avevate già vista tutta. Sì. Quella dietro trovate la tomba di Bascal Offenheis, grande chef. Oh, gourmet. Gourmet. Gourmet. Gourmet. Comunque sì, confermo che energie per Porto purtroppo non ha un'altra lista di centrodestra. Sarebbe stato divertente però. No. Proseguendo per il corridoio, vedi l'ingresso di questa cripta numero 26, intitolata Intrinsic Value. Va bene. Come, scusa? Cioè, è il nome d'arte questo, il nome vero? Non lo so. Non c'è scritto altro, solo il nome. No, c'è scritto che sperperò la ricchezza per la conoscenza che poté portare in paradiso. Ok. Cioè si comprò delle indulgenze sostanzialmente. No, non capisco se questi erano tipo dei re precedenti, ma chiedo ad Atanas che mi sembra un po' più per queste cose. Dici che ha delle ricchezze anche qua dentro? Mi guardo male. Infatti ho detto ad Atanas che non ti guarda nemmeno. Esatto, faccio un'investigation per... Ma la porta è chiusa, Katta. Sì, questo sì. E come provo a aprirla, mi avvicino alla serratura. Ok, non c'è bisogno che faccia un'investigation. Sono delle lastre di pietra, per rimuoverle vanno spostate. E vabbè, allora prova di ladro. No, non sono a prova di ladro. Vabbè, la apriamo. Race, vuoi che abbatti la porta? No. Lasciamo i morti, dove sono? Cerchiamo strada, dai. Non serve abbatterla, basta spostarla, poi la richiudiamo, non siamo mica dei vandali. Okay. Vuoi che sgretoli la porta? No. L'ultima volta che ho buttato giù delle porte ammartellate in una catacomba. Inutili. Va bene. Mi lascio convincere. Ok. Quella successiva è intitolata a Stefan Gregorovic. No, abbiamo esattamente il contrario. Salla, no dai, non ho voglia. Ah ok, dai, allora lo facciamo. Vabbè, no, è il discorso del non perdere tempo. Cioè tutti correte, andiamo. Ne ho già aperto. Guarda, sfonda sta cazzo di porta allora. Va bene, faccio una prova di forza. Ecco, vedi, sai che cazzo è? È tipo il padrone. 17. No, non 17. La voglio rompere, la voglio solo aprire. Adesso sfondo sta carta di porta. Non voglio rompere, però. Hai tirato basso. No, voglio solo aprire. La sparava Ardistran. È un più 8 io in Athletics. Io ne faccio una per tenerla chiusa. Perché? Quanto cazzo era la CD? Beh, 17, minchia. Che porta, cos'è? Sì, riesce ad aprire. Divento armato. Quindi entri nella tomba di Sik, cosa? Sik Valu. E c'è uno scheletro avvolto in alcuni teli che giace sopra una lastra di marmo al centro della cripta. E la maggior parte delle sue ossa sembrano polverose e rovinate. Il teschio però è estremamente ben conservato. Non c'è nient'altro? Mm-mm. Ma ben conservato nel senso che... Vabbè, prendo il teschio, guardo il teschio, allora non so, approfondisco. No, cerco di capire quello che intende. Sì, che rispetto al resto del corpo il teschio sembra molto meglio conservato se lo confronti con le altre ossa. Lo analizzo meglio. Mm-hmm. Mi avvicino al teschio e cerco di capire il motivo. Ok, senti una flebile voce provenire dalla sua mandibola, o insomma dalla zona dove una volta c'era la sua lingua. Oh no, è scheletro. Maledetto Mahimen. Che cosa fai? Ah, ma non dice niente? Non hai è molto flebile, quindi non si sente molto bene da tenendolo, come dire, mentre se lo tieni in mano mentre esaminandolo. Lo avvicino all'orecchio, insomma. Morde. Farmi mordere l'orecchio. Anche perché no. Si finiscono tutti i peli in bocca, lo dico per lui. Riesci così a sentire meglio le sue parole, che sostanzialmente non è rumore del mare, non è nemmeno quello, ma è qualcosa che minchia fai, è qualcosa di più sul mettimi giù, è più o meno. Vabbè, davvero dice mettimi giù, è una gag. Dice mettimi giù. Vabbè, lo metto giù con fare poco curante e me ne vado. E dopodiché ci sono io che ti guardo. Dice hai belito in fly. Contento? Hai fatto una buona azione. Messo una ricchezza e richiudo la porta. Dopo averla spaccata. Non siamo dei Vandal. Distruggo tutto! Non ho rotto nulla. È stato anche troppo buono. Dai, cerchiamo sto Strad. Vai. Ok. Proseguite e la prossima tomba è di Stefan Gregorovic. Mi sento il ritorno di cuffie. Marco? Ora non lo sento più. No? Vabbè. La tomba di Stefan Gregorovic dice il primo consigliere di Rebarov von Zarovic. Ci interessa. Andiamo avanti. Arrivi all'angolo. Non vedo interesse a nessuno. La tomba che c'è lì nell'angolino è di Ivan Ivliskovic, campione delle corse del cane d'inverno. La corsa potrà essere stata veloce, ma la vendetta è per i parenti del perdente. Non posso che essere d'accordo. Ok. Molto bene. Congratulazioni, professore. Tutto il resto. Next one. Perché è più grande adesso, Carlo? No, non lo so, ho sbagliato, non riesco più a rimpicciolirlo. Mi sono allenato, scusate, si vede tanto. Boh, ok. Dopodiché svolti l'angolo, la tomba numero 30 apparterrà al prefetto Cyril Rumolic. Apparterrà forse, vediamo. Amato da King Barov e Regina Ravenovia, alto prete dell'ordine del Most Holy Order, dell'ordine più sacro. Direi che non ci interessa. Parla per te. Ho una domanda. Mentre Garrosh fa tutte queste cose, posso lanciare un Detect Magic come rituale in 10 minuti? No, ma penso che stia usando me a rappresentanza, tra virgolette, del gruppo. Stiamo tutti, penso, muovendo. Sì, vi state incamminando tra le tombe. Queste cose avvengono in meno tempo di 10 minuti. Quindi se vuoi lanciare il rituale, rimani indietro. Tomba del prete. Ok, vediamo se riesco a scrivere. Oh, ecco. Apri la tomba del prete. Tiro? Sì. 23. Ho fatto casino, ecco perché. Questa è la 30. Riesci ad aprire la tomba. Al suo interno, al centro della tomba, c'è la solita lastra di marmo. Sopra della quale si trova uno scheletro avvolto in vestiti rossi. Ha un simbolo sacro dorato che era chiuso nella sua mano scheletrica, e il soffitto della cripta, alto 15 piedi, è dipinto per sembrare come se il soffitto si è avvolto da una coltre di foglie autunnali dai colori accesi. Chiedo a Vardistran che dio è, di chi dio è il medaglione. Lo so, devo tirare. Arrivo. Ci sono questo simbolo sacro. E intorno al soffitto, intorno alle pareti in alto, c'è un praticamente questo cercolo di pietra che circonda la base della volta, e sopra di essi praticamente spuntano dozzine di corvi di pietra e i loro occhi sono fissi sulla lastra sottostante. Esamini, cerchi di capire dal simbolo sacro che divinità può essere. Il simbolo è molto prezioso, è decorato con piccole gemme ed è fatto di oro. Quindi se lo riconosci allora come vede un simbolo del Signore del Mattino, del Morning Lord, che è una delle religioni qua, giusto? È una delle due divinità di era quello del folle, no. Sì, dei lupi. La madre notte e il signore del mattino sono. È il signore del mattino. Eviterei però di inimicarcelo andando a saccheggiare queste tombe. Cerchiamo invece quella di strada, cioè quella che ci interessa. Andiamo avanti. Richiudo la porta. Mentre esce, io voglio fare con mano magica tirare giù il coso e portarlo via. Ok. Allora. Lo vuoi fare in modo che da non essere visto da qualcuno o te ne frega? Non essere visto da tutti, tranne... No, da non essere visto da Vardistan. Va bene. Diciamo, da non essere visto da nessuno, ma in particolare da Vardistan, se gli altri mi vedono... No, ci sta, in realtà. Va bene. Perché so che a nessuno di voi frega un cazzo. Sarebbe divertente se la fai che Vardistan non ti vede mentre a noi la sfoggi come cosa. sì, in realtà, cioè, se voi per sbaglio mi vedete non è un problema. Anzi. Però se Vardistan mi vede è un problema. Vai, fammi uno stealth. Allora io sto tipo chiudendo la porta. Dovrebbe essere. Ho fatto 20 di dado. Però... a cui sommi un bellissimo rapidità di mano o furtività, ma andate uguale 33. Direi che nessuno ha una percezione passiva tale da riuscire a scovarti. L'amuletto scivola, viene portato dalla mano magica e ti scivola lentamente, anzi furtivamente, nella tasca. E qual è il tuo allineamento? Caotico neutrale. Sei rimasto neutrale dopo nonostante aver accettato. Finalmente si unisce alla truppa dei malvagi. Sono chiaramente rimasto neutrale. Ok. Però mi è piaciuto, qual è il tuo allineamento? Ok. Proseguite. Se eri malvagio ti faceva del male. La tomba successiva ha una strana iscrizione che dice: lo conoscevamo solo per la sua ricchezza. E quindi quella gag potrebbe essere tipo: se sto talismano lo metti tipo nel tasca di Sceo e comincia a bruciargli. Tipo, io so, questo era conosciuto solo per la sua ricchezza. Vabbè, dopo diventa una grande arma contro Strad, glielo butti addosso. Sì. Vabbè, come prima, si parla di ricchezza. Cioè, qui tipo non ho neanche il tempo praticamente di dir nulla, tipo si avventa, tipo vedo tutti che si avventano, tipo mio, è mio! È mio! No, immagino lo Sceo che comincia tipo a sfondare, giù tipo, prima... si spintola con Giulio. Prima c'era io non cerco ricchezze, non sono... Tipo, no, Salla che arriva lì, comincia a dentare, tipo, la tomba. È mia! Non sono settato. Ci stava la gag prima, però basta. Cerchiamo qualcosa che ci possa essere utile. Ok. Però davvero stiamo qua delle ore. Proseguite. E dentro c'era tipo il mondo. Esatto, cioè, mi sembra... Tipo, era quello che diceva. No, raga, non la cucinavo un ottimo spaghetti alla carbonara. Ti stroggiamo, sì, vediamo cosa c'è. Non l'abbiamo sto posto. Cioè, non l'hai aperto, scemo. Amava le polpette al sugo. Neanche io cerco ricchezze. Prima era una gag, ci stava di aprirne una così, ma buona. Vabbè, però possiamo aprirlo questo. Dipende. Ma non lo dico per me, lo dico per un amico. Ma lo dice il giocatore o il personaggio? Il personaggio. No, il personaggio dovrebbe dire un'altra cosa, in realtà, una cosa evasiva. No, quello è quando gli fanno una domanda. No, solo se risponde alle domande. Ok. E quindi forse dicendo che dovremmo aprirla? Alla fine questo posto è più caldo di quello che pensassi. Vabbè, dai, Garro, shop, apri. Esatto, ottima motivazione per andarci. Ma perché? Va bene, boh, per divertimento per me ci sta di aprirla. Ragazzi, Reis ha detto che vuole aprirla. Apri. 16. Ok, riesce ad aprire la porta. Fermi tutti. Cerco se ci sono trappole. Ok. Guardando in basso, vedi che Garrosh è caduto di 10 piedi. Io sono delle picche a cosa fare 14 di gira verso gli altri. Sì, c'era una trappola. Percezione e investigazione. Dipende dalla descrizione delle tue azioni. Semplicemente vado avanti lentamente e osservo se ci sono tipo gradini di... Allora è perception. 15. Ok. Capite, per rubare le robe 33, per parare il culo agli amici 15. Esatto. Faccio anch'io un cercare trappole. Mi sembra tutto a posto, mentre tipo un drago. Ma capito, state sperando che ci sia una trappola per me o... Però con tipo Athletic, spingendo Garrosh in mezzo alla stanza. C'è solo un modo per saperlo. Alla dodicesima tomba che apriamo, ah raga, controlliamo se però ci sono. Però tipo la devi prendere, giuro, devi prendere o tipo lanciarla e fai vai avanti piccoletto. Allora, all'interno di questa cripta è vuoto. Alle pareti vedete che sono dipinti delle montagne di monete d'oro. Che delusione. Race nota che il pavimento della cripta altro non è che una copertura per quello che può essere una fossa e che si apre da questa copertura si apre in mezzo e in mezzo da est a ovest da est quanto mi sembra ovest. Pesante sta roba, cioè con mano magica ce la farei a fare cosa? Ad aprirlo? Ad aprirlo. Cioè, quindi tipo bottola? No, tipo bottola, però bottola che si apre così. Ah, ok. E ti sembra fatta in modo che regga un peso di una persona molto magra, ma sicuramente col peso di una persona tipo in armatura o due persone, il peso la fa aprire e chi c'è sopra scende verso l'ignoto, ho detto molto magra, ma intendo molto molto magra. Un gatto. E allora c'è una botola, vabbè, vi dico tutto, in realtà io col cazzo che ci entro, quindi vedete voi. Siamo direi tutti d'accordo su non entrare. Non spingo Garrosh in mezzo alla stanza. Però questa rega la lascerei aperta. Però rega questa la lascerei aperta. Metti che qualcuno è in giro, è curioso. Cioè, gli unici che potrebbero essere in giro che non sono alleati di Strad sono nostri alleati, vogliamo farli andare. Allora, cioè, tutti gli ospiti della festa, dai. Qualche vistano che passa. È che sono alleati di Strad, che sapranno che non devono venire qua, tipo. Va bene, chiudiamo la porta. Ok. Non sei abbastanza divertente, Giulio? Ti guardo con le mie orbite vuote. Non dire cosa di cui ti puoi pentire. La prossima cripta non ha alcuna iscrizione sulla porta. Merda, raga, le apriamo tutte. Vabbè, andiamo avanti, se non c'è scritto niente sarà vuota. Ok. La prossima che hai a no, proprio dove non c'è scritto nulla che... no scherzo, non mi interessa. Anch'io avrei aperto quella. Alla tua sinistra ce n'è un'altra, quella che è della riga superiore, che non ha una porta, nel senso che è aperta o nel senso che è tutta sigillata? Nel senso che è aperta. Ah vabbè, ci do un'occhiata dentro. Ok. Vedi senza che entrare intanto l'occhio, visto cosa mi ha detto di quell'altro. Interno è pieno di ragnatele. Quando fai per sbirciare dentro, tre ragni giganti lupo ti attaccano. Tirate l'iniziativa. Non sono entrato però. Oh, finalmente l'abbiamo fatta la caccata. Sì. Avrebbero attaccati comunque, chiaro. Prima no, perché... Oh, ce l'abbiamo fatta. 22. Tre ragnetti. 12. Sto tirando bassissimi. Allora. E rimango sfortuna. Dove sono, bello dietro. Sfortuna 22. Garrosh. 12, ma per, uno per scelta, Vez? O... In realtà no, l'ho fatto, però sì, diciamo che... Ardestran 1. Io sono, ovviamente sono molto indietro in questo caso. Race? 20, non di dado. E Atanas? Più rapidità di mano, 47. Più 19, se non preferisci l'altro sono 85. Ho dimenticato qualcuno? No, direi. Cioè, perché ho appena sfidato le tue divinità. Ora faccio un tiro invece sorte. Per dare un più 5 ai miei amici. Ho fatto 3. No, non c'è problema. Col dado ho tirato 12, però un meno no. Ok. Sfortuna, sei il primo. Dai. Quindi cosa vedo? Questi tre ragni sopra Feo stanno ancora scendendo. Te lo dico io cosa vedi, Marco. Tu vedi due Eldritch Blast. Sono usciti dalla cripta e attaccano dai tuoi vari. Il primo che trovano. Ma voi siete stati più veloci e potete attaccare prima di loro. Oppure chiudere. Non c'è la porta. Allora mi allontano... abbastanza qui ci vorrebbe Arci che spara del fuoco e faccio probabilmente Eldritch Blast. Comunque avete il dan di Facebook, detto che li vedevi. Controlla su YouTube, ha commentato anche Ambra, e il down di Facebook non ferma i nostri fan evidentemente. Grande. Me l'ho salutata. Sì, detto ah, bravo. Quindi guarda te su YouTube. Hai ragione. Quindi uno 26, l'altro un 9. 26 colpisce, 9 no. 12 danni. Ne uccidi uno. Race. E tiro una freccia, credo. A Garrosh. Okay, un quadrello, cioè una balestrata, un quadrello di balestra, un vabbè, insomma, balestra questo. Quadrata. Uno stuzzicadenti, un missile. Un balestra di quadrella. Bomba termobarica. 22. Bello. Colpito. E un D8 7 12 morto, ne rimane uno. Atanas, madonna raga, devo far tutto io, non so, sono sono un po' demotivato da questa vabbè attacco. Deve essere motivato Giulio. Con delle creature così carine, perché ucciderle? Motivato. Che cosa vi rappresenta? Esatto. Tra l'altro erano tre, no? Sì. I due sono già andati. E ne rimane uno, cosa vorresti dire con questa? Vabbè. Aspetta che faccio Garrosh. Parle. Faccio 17, 21 e 19. Magari non dovevamo ucciderli. Colpisci con tutti. E sono 5, 3, 8 più 2, 10 più 15, 25 tipo spappolato. Esatto. Avete ucciso i pericolosissimi ragni. Stavi cercando il ragno, ma sono già morti ora che hai trovato. Sì, posso fare però lo faccio, cioè sono, si vede che sono, cioè sono molto depressa con questo scontro. Ok, ma perché? Ma perché tipo ti aspettavi di incontrare la bestia peggiore del mondo o perché? Ma perché, cioè, non hanno neanche urlato pietà, cioè non hanno neanche avuto il tempo di... Sono dei ragni, o sbaglio? Sono che urlino? Per dire. Lascialo dire. Non si è potuto vedere il terrore nei loro occhi. Di occhi ne hanno parecchi. I tentativi di furia. Ok. 33. Ma io non so io. Di solito vedi il terrore nei nostri occhi, Giulio. Allora, andando avanti, passate sul retro di questa tomba che è l'entrata, comunque, dall'altra parte. A mia discolpa, avete è arrivata alla 34. Avete scelto voi di far giocare con te i giochi di ruolo. Sì, hai ragione. Assolutamente vero. La prossima entrata che trovate, sopra ha scritto il nome di Re Dostron. Il Hellborn sarebbe nato colui che è nato nell'inferno. Ah, ho sbagliato. Ho un più 7, non ho un più 5 in forza. Vabbè, niente. Vabbè, era più depresso. Sono ancora più morti. Madonna. Quindi facevi tipo 30. E... va bene, allora io a questo punto cambio strada. Che vado dall'altra parte. Cambio strada? Sì. Quale altra parte, scusami? Vado oltre. Non voglio più vedere. Esatto, io vado dalla parte opposta. Si scatta una trappola. Quanto ridi. Bellissimo. Siamo opposta... solo un giro di nomi. In realtà, guarda che in termini di gioco stanno passando tipo 10 minuti in tutto, neanche. Sì, però il vostro atteggiamento mi ha esasperato. Quindi no, adesso stiamo solo leggendo. Merda, questo qua ha preso l'armatura di Dio, sì, esatto. Adesso io sono a posto, andate a fanculo voi. È esattamente così. Ma va detto che io non la cercavo, quindi... Comunque no, io vado... La... Quella riga lì l'abbiamo tutta fatta, no? Siete... Ve ne manca una, questa. Ok, io vado quella dietro, oltre, la riga oltre. 36, okay. 37, 38, 39. Ne fate 36. Ah, vabbè, ma è lì quella di Strad, cazzo. Non lo sappiamo. K86. Probabilmente, non lo sappiamo. Se mancano 3-4, facile leggere, stiamo solo leggendo di noi. Entrando in ognuna. Non è vero. Vabbè, questa è in cima alla porta, sbirciato dentro. Avrebbe fatto chiunque. Scontro! Allora. Scusate, sono quella... scontro. Quella che ha letto Garrosh era King Dawnstron di Hellborn. E non ho sentito faccio qualcosa. Mentre quella che è andato a vedere Vardistran... Apro tutto! Ne ha trovato una. Il cui, se ne trova una che vuole aprire. Il cui nome è stato cancellato da dei segni fatti con delle artigliate. Hanno cancellato il nome che c'era. Su questa, sulla tomba numero 36. Ok, passo a quella successiva. Ok, 37. C'è il nome di Gralmor Niblenobd, mago ordinario. Fantastico. Passo a quella successiva, ma ops, con coda dell'occhio. Ops, lì con la coda dell'occhio cosa vedono le mie fusche pupille? Se non hai della luce, oscurità. No, credo di averci la luce io. No, andavo avanti io perché ci vedevo. Lol. Quindi già il fatto che hai letto i nomi. No, c'è la luce verde. E quindi intravedo una scalinata. No, prima della scalinata c'è un pesantissima saracinesca. Mi avvicino lentamente di là, poi vabbè lascio a loro che aprono quelle varie tombe. Ma ne abbiamo aperte due su 40. Vedi la stanza 86. Tu sei l'unico che ha raggiunto quelle buone, non le hai aperte. Una pesantissima saracinesca è abbassata, chiusa, e impedisce l'accesso all'interno di questo dell'arco che conduce all'interno della tomba. I gradini che ci sono, che scendono verso il basso, sono di marmo nero e il soffitto è alto 30 piedi. L'essenza della malvagità permea l'area stessa. Che cosa? Che alto 30 piedi. Sì, la luce illumina fino a lì. La malvagità permea la stessa area che respiri. L'odore della... percepisci anche l'uovo per me. Va qui in particolare. Percepisci anche l'odore della terra che è stata appena rivoltata. Appoggiata su... praticamente. Cioè, di tutto. Appoggiata sulla, sul, proprio sul terreno, sulla nuda terra del pavimento, c'è una bara di legno nero, estremamente lucido. Le decorazioni della bara sono in ottone brillante e il coperchio è chiuso. Tomb entrance. Va bene. Allora, una domanda per Vez. Dimmi. Il banner Tycoons and Dragons è appositamente messo sulla faccia di Sceo o è per sbaglio? Cioè, io penso sia la prima, però nel caso te lo dico. Dov'è? Ci è andato da solo, però l'ho visto lì e... No, dove? Poi sulla faccia di Sceo. Stava sulla diretta. Avendo la schermata grande aperta sulla mappa di Katta, cioè... Ah, ok, perché avevo aperto... Oh, io lo vedo in basso. È in basso, ma quando lui fa vedere la mappa è sceso da sopra diretto. Ok, ho capito. O meglio sotto. No, non lo so, però ora che me l'hai detto penso che... Lo lascerò così. immaginavo fosse fatto appositamente, però non volevo essere certo. Se me l'hai fatto notare... No, tra l'altro è una cosa che volendo io posso anche gestire quella in realtà, più o meno. Cioè, posso tenerlo qui, ma posso anche metterci un altro potenzialmente. Tipo adesso ci sono io. Sì, ci sono io. Se scorri. Va bene, smettiamo di giocare così. Direi che vado su ad avvisare gli altri. Ok, vedete, Gardistran che torna. E gli dico, ragazzi, penso di averla trovata. Tra l'altro c'è anche la miniatura di Strad che si sta attaccando, quindi se volete venire... Quello è Arthanas. No, quello è il mio avatar. Che effettivamente fa una figura molto importante. Io intanto posso aprire la tomba del mago mentre lui sta parlando. Provi ad aprire la tomba del mago. È il re della caccia selvaggia di The Witcher 3. Ma dai, pensavo fosse il cavaliere nero di... Cavaliere Teschio di Berserk. No. Per quanto ci assomiglia. Sfortuna, come pensi di aprire la bara da tomba del mago? Provo spingendo la porta. Ok. Fanculo zanzare di merda. Ai. 37. Sean, vediamo il tuo video. Strano. Okay, ora lo vediamo. Io vedo Sfortuna che sta cercando di spingere. Non so dove siete. Cioè, io pensavo fossi tutti insieme, però deduco di dove. Però c'è buio. Sì, ma non c'è buio, c'è un attimo che emana luce. Alla fine tutto questo nell'arco di 10 passi neanche. Sì, beh, no, in realtà probabilmente non sono così pochi. Conoscendo le ambientazioni che vediamo, saranno tipo... Rischiamo il paladrago? In realtà no, sono enormi. Vabbè, però siamo nello stesso corridoio. Tu conta che un quadretto grosso sono... tipo 15. No. Tipo 15 chilometri, cosa? Sì. Aiuto. K. Ah, ha arrivato il cibo per Giulio. Cioè, cos'è sta cosa? Perché te danno il cibo? Cibo per Giulio. Cibo per sono stati, Giulio. Cos'è arrivato? Sono stati recapitati ai popcorn. Ah. Yogurt ai popcorn? Yogurt ai popcorn. E birba. E birba. Birba. Catta, cosa mi perplime? Ho perso una cosa, ma vabbè, andiamo avanti. Allora, dove, tu mi hai chiesto dov'è che state. Allora, sfortuna era qua. Potremmo saperlo. No? Ha perso la parte della stanza della tomba di strada, ho ragazzi, perso... niente, andiamo avanti. 1, 2, 3, 4, 5, voi siete qua. Va bene, io vi avviso che forse ho trovato la tomba di Strad, e però è chiusa da un cancello e bisognerebbe darci un'occhiata. Ok, ottimo, direi che andiamo. Nel mentre non so se Sfortuna si mette a spingere una lapide, nel caso cerchiamo di capire cosa... Lo guardiamo, ma... Non so Sfortuna, quanto hai fatto per spingere la lapide? La lastra di marmo. Eldritch Blast, ho fatto Eldritch Blast. Ma tira con svantaggio. 21. Ok, quindi uno è Eldritch Blast e l'altro è Eldritch Blast. Con hai svantaggio fatto... devo tirare. No, hai fatto 21. È critico. Hai usato 20 così. Va bene, l'apri in forza. No, a meno 2, tipo. Fatto per 21. No, a meno 1. Più 2 di... Sì, a meno 1 di forza. Però... Hai la competenza. Ma fare 21 c'è a meno 1 perché che la lo tira. Cos'hai? No, ha un più 2 di proficiency. Di athletics. Forse. Ok. Allora. Non so qual è la scheda di Marco, però potrebbe avere. Più 2 Jack of all trades mi dà più 2 in tutto. Ah sì, è il bardo, c'è bonus in ogni cosa. Un po' bardo, okay. Ogni tanto. Allora sì, è bardo, apri... warlock e qualcos'altro? No, solo questo. No, basta. All'interno della tomba del mago vedi la solita lastra di marmo al centro, e sopra la quale c'è il cadavere di un uomo con una lunga barba bianca. E la sua pelle è ormai secca ed è molto attaccata al suo cadavere e alle sue ossa, e indossa delle vesti rosse polverose. Attaccato al suo petto c'è un bastone di legno che ha un pomello di ottone ad un'estremità e un pomello di marmo all'altra. Mando il gufo a cercare se c'è un libro, se no prendere il bastone. Ok. Dimmi che fa come i cani in una staccionata. Tu riesco a portarlo fuori. Il gufo si mette a cercare. Non vede dei libri, ma fammi un perception. Per me o per il gufo? Dipende chi dei due si mette a cercare. Ok. Io non penso sia sicuro, quindi lo faccio per il gruppo. Ok. Cosa sta succedendo? Il gufo sta ispezionando. 18. Momento di okay. Il gufo nota che da una estremità della lastra di marmo c'è una piccola conca, un piccolo incavo di forma tondeggiante. Dopodiché ti faccio andare con ti faccio andare a vedere cosa c'è dentro. Non c'è dentro nulla, è come dire nel marmo è come se ci fosse uno slot, non è un buco che va dentro. Tipo conca per raccogliere il sangue. O comunque per infilarci dentro qualcosa. Ma non è proprio profonda di qualche centimetro. Di che materiale è? La lastra di marmo. E il bastone è un'estremità di marmo? E il bastone è un'estremità di ottone e un'estremità di marmo. Salla, Luca Oddis, sei tu, immagino. Allora faccio la minchiata, entro, prendo il bastone e infilo l'estremità di marmo dentro la conca di marmo. Ok, come fai questo? La lastra di marmo comincia a levitare in aria, alzandosi di 5 piedi. Io sono ancora lì attaccato che cerco di reggermi? No, no, tu non sei sulla lastra, la puoi infilare stando sul pavimento. Allora grido: Garlo, puoi venire dalla mia mano? Vabbè, vado incuriosito. Ho fatto un opsi. La scena che vedo quindi è una cosa che levita e lui di fianco che esulta come un bambino che ha trovato un giocattolo, giusto? Esatto. Sotto la lastra vedi che c'è un compartimento e all'interno del quale vedi un contenitore di pelle nera. Dico, forze arcane mi obbligano a restare qui a controllare la levitazione, potresti prendere il contenitore da dentro? No. Ok, no, sarebbe bello però se no. No, vabbè, sì. Poi dici ok, bastardo. Caotico malvagio lui. Vabbè, sono curioso di depredare ste trombe. Buona azione dei buoni scopati. Ho visto lui che ha trovato un'armatura figa, io ho trovato, vabbè, le ali, mi sono divertito, insomma, magari troviamo qualcosa di utile. Ok. Prendi contenitore, lo apro. Il contenitore di pelle nera. All'interno vedi tre pergamene. E non capisci cosa sia. Le lancio a lui e dico, boh, sta roba non mi interessa e me ne vado. Ok. Speravo di trovare altro. Sfortuna, vedi che le tre pergamene sono di cono di freddo, palla di fuoco e fulmine. Sono un po' deluso, mi prendo il bastone con me. Ok. Perché io lo stocco non ce l'ho più perché è ancora nella segreta, quindi adesso userò il bastone. È una normale quarterstaff. D'accordo. E mentre siete lì, le altre cripte hanno il nome. Il numero 38. Sta per suicidare. C'è Barry Strand lì che sbatte la testa. Porta sta pazienza. Pensando di incidere il suo nome in quella vuota. È scritto Gary Sai Sensei Amato. Abbiamo quasi finito. La 38 è dedicata a questo generale Croval, il cane pazzo Grizzly. Ah, questa l'apro. Abbiamo quasi finito. Sei un pezzo di merda o no? 21. L'hai aperta. Non l'avevamo guardata. Perché? Beh, siamo lì. Cosa abbiamo? Le bende sugli occhi. Dai, Giulio, non ci ha neanche gli occhi. Per questo le bende non funzionano. Stefano, stiamo andando lì nella voce di Bob. Attenzione, attenzione. Mi reparto tombe. Un'offerta okay. Per il generale Croval. Non posso dire la tomba di cane pazzo. La tomba di cane pazzo, detto il signore della caccia, un comandante di uomini e di mastini. Nel momento detto in cui viene aperta, venite investiti dall'odore che idea del cazzo. Di zolfo e di pelo bruciato. Ah, vabbè, ma questo è amico di... Nell'oscurità di vedete tre paia di occhi rossi che splendono nell'oscurità. Io almeno non l'ho aperta, quella era dei ragni, era già aperta. No. Posso dire, cioè, che è un'ingiustizia, cioè non l'abbiamo guardata, perché? Ma questo è amico di Pac, che non c'è. Beh, in realtà c'è la sua miniatura più avanti, più sopra. Io non ho intenzione okay. Di perdere nulla per sta cosa. Vedremo se ci riuscirai. I tre mastini infernali che sono all'interno. Sicuramente io sono il più lontano. Cioè proprio non c'è dubbio. Tiratemi l'iniziativa. Madonna. Vez fa uno, te lo dico già così. 8. Pat che qua. No, è che tra l'altro col fatto che farò meno finirò sicuramente tipo il primo della fila e prenderò 20.000 danni. 16. Atanas 21. 16, Garrosh 21, Sfortuna, non mi apre la chat, però ho cliccato, quindi non vedo cosa c'è scritto. Puoi guardarci? Non ti apre 10. La chat. 10. 10. 5 più 5. Vardistron? Si è spento. Cos'è? Mettilo ultimo, tanto Vardistron. Lo sappiamo già. Quanto hai fatto? 8. No, rega, io lontano. Adesso, cioè... Va bene tutte le gag, però io sono proprio il più lontano. E Race? 19. 19. Allora, quindi il primo è Garrosh. Basta chiudere la porta. Cioè. Esatto, infatti no, stavo per dire, non c'è possibilità di chiudere la porta. Dipende, il mio 8 in intelligenza secondo te? Entra e chiudi la porta dentro. Non mi interessa, questo, no, lo prendo, questo non mi interessa, è una tua sfortuna. Si chiude dentro. Dipende, il mio 8 in intelligenza e 10 in saggezza, è probabile che mi faccia attaccare. Beh, hai abbastanza saggezza per capire che se vuoi c'è una porta che puoi chiudere. Ok, Garrosh, cosa fai? Descrivimi proprio bene bene quello che vedo, perché io stavo arrivando da... che ero con Sfortuna. Non c'è più lo stream. Quindi dipende, è vero. Non c'è più lo stream. Dipende dove ero. Pazienza, ma come vi permettete? Stream in pausa. Ah, il mio. Tuo. Perché mi stream in pausa? Adesso lo riapro e lo chiudo e lo riapro. L'hai ridotto a icona. No, sto guardando direttamente dalla map. Ah, perché l'ho ridotto a icona. Dicevo, io esattamente cosa vedo, perché può darsi anche che io la vedo. Che bella questa cosa, Katta. Che cosa? Che stai streamando noi. Tu che stai guardando su YouTube. LOL. Ha preso l'altra finestra, cioè gli ho detto che è l'altra finestra. Cambia finestra. È andata bene, tra l'altro, da quello che vedo. Su. Vero. E cosa vedi su... C'erano le statistiche del mastino. Okay. E dicevo, cosa vedo? Cioè, se arrivo tipo all'ultimo non ho ben capito, l'ho vista tutta la scena. Ma che palle, perché ti fa diventare gigante se clicco su di te? ok. Big Garrosh. La scena... è che in realtà più o meno le cose sono avvenute in contemporanea, nel senso che mentre Vardistran andava a vedere la tomba e tornava indietro a dirvelo, tu e Sfortuna avete fatto il vostro giochino. Quindi vi radunate lì davanti. Atanas legge il nome che c'è di sopra e dice: ah, che figo! E apre la porta. Dovremmo andare. Sì, uccidi! Esattamente così. E la porta viene aperta, voi siete lì davanti e al suo interno vedete questi sei occhietti sbrilluccicosi di colore rosso. Atanas è ancora appoggiato alla porta, diciamo. Sì, sono venuta. Tipo qua. Atanas allora corro verso la porta. Atanas dico aperto e divelto sono due cose. Cose diverse. Ma l'ho aperta. Cioè, quello non è che hanno i cardini queste porte, sono delle lastre che tu prendi. Sì. No, vado da Atanas e lo aiuto per richiudere, dai, è logico. E faccio un tiro di forza, immagini. Sì. È caduto il danno, che brutto segno. 14. Hai fallito. Non riuscivo. La porta rimane aperta. Può essere considerato. Reis, cosa fai? Lo vedo da dove sono. Io sono lì dove sono. Aspetta, però se lo faccio aiutando. Se non vedi l'interno. Ma non posso avere vantaggio perché Atanas mi aiuta. Barra ci aiutiamo a chiudere la porta. Non tocca ancora a lui. Qualcuno ha detto qualcosa? Vedi la scena appunto di Atanas che apre la porta e Garrosh che cerca subito di richiuderla. In realtà io non so che cazzo ci sia dentro, quindi prendo la balestra di nuovo e preparo l'azione. Se esce qualcosa li sparo. Okay. Perché non sai? Perché non sei... Ah, non vedi. Perché io sono lì di fianco. È più defilato. Ok, tipico. Agisce il primo mastino. Dalla sua bocca esala un cono di fuochi e fiamme. Che idea del cazzo. Vabbè, no, ma la porta ci darà copertura. Una lastra di marmo. Siamo dietro la porta. Ogni creatura nell'area deve fare una prova di destrezza CD12. Dove è Vardistan? Io lo so nell'area. Tu sei proprio lì davanti, Vardistan. No, rega, io stavo andando alla cosa, cioè perché devo essere lì? Cioè, scusatemi, però questo non... Perché era dove vi siete ritrovati e a dire... Però tu sei... Adesso, decidi tu, però in teoria era il momento in cui sei tornato per dirci... Esatto. Cioè, sei tornato per dirci che hai trovato... Sì, io ho detto e andiamo. Poi dopo, se questo si mette a far cose, perché io devo subirlo io? Perché sei nel posto sbagliato al momento sbagliato. No, ma in realtà ci sta, nel senso che se è nel momento in cui gli hai parlato, tu non vedendoci ti sei avvicinato per forza. cioè, e che comunque stava, cioè, sta cosa qua l'avrà vista perché stavamo andando in là, perché io quando vi ho chiamato eravate su dal reo Osis, ci siamo radunati lì dove siamo adesso e tu ci hai detto della cosa di strada, no, poi lui ha fatto questo, mi sembra, cioè, erano da qui e tu eri qua e vi siete incrociati a metà strada. Che bravo professore. Grazie. Adesso intanto io mi vado di lassù perché così lo risolviamo così. Allora, tiri salvezza sulla destrezza. Atanas. Cioè, a cazzo di porta non dà. C'è il bonus di vettura. Sì, avete il bonus di vettura. Bonus per cui voi lo passerete tutti tranne me. Io faccio 13 col mio inutile bonus. Ok, quindi mi dai un più 2? Ti do un più 3. Maledetto. Più 3, sbam, quindi per me diventa un più 5 col mio 17. Ok, Atanas. 4, 15. Ok, l'avete superato tutti. Prendete solo 10 danni di fuoco. Sì. Tanto avete tutti i punti vita temporanei, quindi. Sì, per tu. Atanas. Arrivo, chiudo la porta. Prova di forza. Anzi, anche tu è veramente ironico. Cioè. Guardo Garrosh. Cioè, guardo Garrosh. Non posso dargli vantaggio. E gli dico, guarda, si fa così. E faccio 17. Chiudi la porta. Ok, sentite all'interno abbaiare e sbuffare i mastini infernali. Patk dove è finito? Dove è scappato? Esatto, Patk invece è nel dubbio, ecco. È davanti a me. E dopo qualche istante sentite provenire dall'interno della cripta una voce che parla in infernale e sbraita degli ordini e dei comandi ai mastini. Io mi sposto, se di noi parla l'infernale. Beh, ha ragione stavolta, ci spostiamo dai. No, voi state, cioè, lì. Scusami, ma io tengo chiusa la porta. Ma scusa, dovrete pur derubare qua dentro, no? Ma sentiamo la porta che si muove, tipo sentiamo spingere dall'altra parte? No. Ma qualcuno di noi parla l'infernale? Esatto, io non capisco quello che dice. Voi le parlate, in teoria. Tu, Giulio. Io parlo celestiale. No, io parlo il celestiale. Tu parli il celestiale? Chi parla l'infernale? Io parlo l'infernale. Ah, no. Quindi io capisco benissimo, okay. E gli dico, vi chiede di entrare gentilmente uno a uno a chiappe scoperte, non vi succederà nulla, armature più 5 per tutti. E anche sfortuna, a quante pare lo so. Mi corregge, no, in realtà erano armature più 4, ma comunque il concetto, ma scusami, c'è una barriera linguistica tra demoni e dannati e diavoli, sì. Beh, sono diavoli. Acerrimi nemici, questo è il, non si sono mai capiti, Sal. Esatto. Cioè, all'inferno c'è un casino bestia, perché ok, cosa è stato detto? È stato detto appunto una buona dose di insulti e improperi molto rudi e a quelli glieli traduco tutti. Ok. Porco Asmodeus. È una voce molto possente di un qualcuno che era stato molto importante in vita. E appunto, lo capisci dal tono, lancia, di esatto, è molto impostato come uno che ha tipo Ema, no? Esatto, uno che è stato abituato a oggettivamente comandare. Tempo di attorialmente parlando, cioè, è come avrebbe voluto essere Larios. Larios. Ok, le sue parole sono di scherno. Ma sta tipo piovendo a dirotto? No, qui no. Beh, non neanche in Germania, qua a Bologna. No, neanche qua. Boh, qui di fianco c'è la amica che sta facendo la doccia. Non so se è quello che stai sentendo. No, no, meno che non si faccia la doccia fuori dalla mia finestra. In camera, cazzo, no, però è dall'altra parte del muro. Beh, quando lo siamo andati a prenderli, gli hai lasciato una webcam, esatto, in bagno. Fuori dal bagno per vedere assalitori. Allora, esatto. Nel frattempo andrò in bagno appunto anch'io. Queste cose di scherno cosa dicono? Non prima di avervi detto sì, appunto questa cosa. Eccola qua. Sì, sta piovendo parecchio. Di poco. Perché poi non è che siamo lontanissimi in teoria. Lui dice qualcosa del tipo: non esiste un mortale in grado di profanare la tomba del generale Kroval, e nessuno, e tantomeno nessuno che è in grado di strappare la lancia di sangue dalle sue mani. Fuggite, codardi. Ok, sciocchi. Questa tomba serbe da profanare. Aspetta, questo lo capisco, io lo capisce chi altro. Esatto, io nel frattempo andrò a pisciare. Allora, io vi dico, ha parlato, ha fatto molti improperi e ha detto che non dovrebbe essere disturbato. Un suggerimento di cui non posso che trovarmi d'accordo. Beh, a dire il vero, ha sfidato la gente fuori a rubargli la lancia, devo dire. No, non è una traduzione corretta. Era chiaramente nell'interpretazione era una questione infernale. Ma c'è una lancia dentro? Forse non alcuni aspetti della lingua infernale non li riesci ad apprezzare. Era un dialetto diverso. Era chiaramente una metafora. Dai, alla fine i mastini hanno solo 45 punti ferito all'uno. Era chiaramente una metafora, una sfortuna. Lui voleva dire: se io avessi una lancia, loro non potrebbero prendermela. Abbiamo uno che li può evocare, cioè. Ma non avendo io nulla, non è forse il caso di proseguire per coloro che ci disturbano? Ma buon Vardista, la lancia è chiaramente una metafora dell'inabilità della gente da fuori di entrare. Esatto, ma quello è un dato di fatto. Quindi continuerei con questa nostra inabilità e concentrerei i nostri sforzi su altre cose. Quindi scusate, non c'era una lancia dentro? No, ma ha parlato di... adesso che ha parlato, ha detto davvero che c'era una lancia? La lancia, sì, di, lancia sangue. Di sangue. Ah, no, no. Ma era preziosa? No, non ho idea. Quella persona da dentro sembrava molto affezionata a quella lancia, quindi forse no, non era così. Allora io sarei per entrare. È arrivato anche qua Giulio. Io direi di provare a parlamentare con sembra un ragazzo a modo, dai. Non mi sembrava proprio. Magari c'è un grado comune. No, sì, vabbè, ragazzi, allora il discorso è che lui, sì, potrebbe nascondere un tesoro, ma potrebbe anche non nasconderlo. In ogni caso, se farete questa avventura, non potrò aiutarvi. Non no, tutto il vostro benessere di punti ferita, per intendere. Va bene, dopo questo simpatico incontro... Minchia, ancora tutto down, comunque, ancora WhatsApp e tutto. Minchia. Io proverei a parlamentare con il re. Siete ancora lì? Quello che ho capito, no, è arrivato anche qua. Hanno perso il tempo perché chi doveva correggere il problema non riusciva a entrare nella struttura visto che i loro badge non funzionavano. Questo è quello che ho capito. Fantastico. E non poteva ricevere la mail perché essendo i servizi down di Facebook e avendo loro la mail solo Facebook non funzionava. Wow. Sì, ma allora non si è sputtanato solo Facebook, si è sputtanato tutti i server dell'azienda praticamente. Sì, l'azienda si è sputtanata. Ma dici che non è un attacco o cosa? No. Oh, secondo me ha fatto una cazzata. Magari hanno il mio programmatore. Se proverei a interagire con questo re. Questa è l'opinione di Sfortuna. Qual è l'opinione di Vardis? Ma adesso hanno detto che dobbiamo proseguire. No, io ho sconsigliato, però se vogliono entrare, comunque ho parlato di questa lancia, l'unica cosa, io non... avete di... mi allontano. Cioè, vi aspetto qua. Io dico... Vabbè, andiamo prima da Strand. Comunque questa... No, se volete entrare, l'importante è che mi fate allontanare abbastanza da non essere investito. Cioè, tu fuoco. Giulio, perché vorresti entrare a tutti i costi? Questa cazzo di lancia del sangue può essere utile a qualcuno, prima o poi. Beh, a te Garrosh non dice niente. Ah, tra l'altro. Non era la tua lancia, tipo. Ah, non so se ci arrivo a collegarla. Perché era la lancia? Però no, non come si chiamava, che sia la sua lancia. Come si chiamava la mia lancia? Aveva un nome. Però non me la lancia del sangue. Blood Spear. No, non me l'avevi chiamata così. Però non mi ricordo come si chiamava. Il nome che è scritto sul libro è quello. Poi non so se ha usato un altro nome. Cioè, Sceo aveva... No, non ho capito. Io avevo una lancia magica, ma era tipo lancia D e c'era o il nome da chi l'avevo presa, c'era un nome. Il nome lancia D, qualcuno. Era Cavan, scritto con la K. Ecco, io l'ho conosciuta, esatto, lancia di Cavan, non sapevo che era. Siamo davanti alla tomba di Cavan. Ma il nome della lancia il nome era Blood Spear. Ah, e Cavan è questo tizio qua? No, questo è un altro nome. Questo è quindi generale Croval. Questo è Croval. Quindi io non figlio. Collego. Ok, io avevo una lancia magica e questa è una lancia, però non ho idea che sia la mia. Ok. Vabbè, raga, a sto punto. Okay, io ti faccio un disegno. Hai detto che sia quello. Per farti capire. E che ne sai che è la stessa? La lancia, non è che c'è una lancia in tutto il mondo. Vabbè, che cosa hai da perdere? Non c'è magia. Cioè, se decidi anni combattere o tutti o nessuno? Cioè... Beh, comunque che discorso è? No, scusami, per ora non vi siete posti sto problema entrando a casa. Un'arma in posto. Più contro strada e tanta appunto, roba, dico, andiamo tutti. Combattiamo. Io infatti vi aspetto qui. Ok. Non è no, tutti, è combattiamo solo con buono. Allora, okay, ho capito il punto. Vi aspetto qui con Patk. No, ma Patk non è più lì, raga. Patk ha visto le fiamme. Ciao. Esatto, vado a cercare Patk allora. Nonostante lui comandi i mastini infernali. Esatto. Che sparano a fiamme. Sarebbe stato molto divertente con lui. Sì. Se la maggioranza del gruppo pensa che ne valga la pena, abbiamo il tempo per estrapolare, per fare un piano che non sia apriamo la porta e facciamoci investire dal fuoco. Sì, apriamo la porta e uccidiamo i investire dal fuoco. Okay. Io voglio solo fare due chiacchiere con quello che parla infernale perché da tanto che non lo parlo. Ok, provo a parlarci. Allora io vi sposto. Facciamo un piano se vogliamo attaccare, va bene. Io mi metto giù. Il piano è entriamo e spacchiamo. Cioè, alla fine, sì. Oh, dimenticavo. C'è un demone maggiore. L'altra tomba è: entrate qui e avrete armi più due. No, dimenticavo. Anzi, no, del... Lo conoscevano solo per le sue armi più due. Quella è una tomba assolutamente da profanare. Quello e... forse anch'io ve lo consiglio. Esatto. Within a 10-foot square of the map, are attacked or cut in an area of armor spell. Io vado un attimo in bagno. Vedi sei paia di occhi. Cioè, di base al mio personaggio interessa il giusto, però chiaro che se la maggioranza va e vuole provarci, batteli, va bene, ci infiliamo. Scusa, nel momento in cui ti dice che è la tua lancia, non ti interessa più. Non so che è la mia lancia. Ma te lo dice Giulio. Ma neanche Giulio lo sa, no, è una lancia Giulio magica. Ma non lo può sapere. No, ok, però è Giulio. È una lancia magica, se vogliamo provare a prenderla, esatto. Se vogliamo provare a prenderla, certo, andiamo. Beh, scusami, però posso dire, cioè Giulio ti dice, la tua lancia, tu dovresti dire, ah, oh, cacchio, mia lancia, sì. Può essere sicuramente una lancia magica, la prendo volentieri. No, beh, però non è detto che sia la mia. Vabbè, scusa, facciamo una prova. Io contavo di più sul fatto che, visto che ho detto che sono delle mammolette e non possono entrare, che per le loro maledizioni ci sarò. Ah, no, invece. Facciamo una prova di storia. Prova a fartela io, che non ho più. C'è qualcuno che ha più l'intelligenza? Occhiolino, occhiolino. Vai. Io? No, eh. Cioè, da quello che ho capito, in realtà non so quanto hai tu, scusa. Ah, io non ho nessun più. Ok. 19. Dai. Ricordi di questa storia, di questo capo barbaro, che secoli addietro aveva praticamente le stesse abitudini di un vampiro, nonostante fosse un barbaro umano, però dormiva sepolto sottoterra, usciva solo di notte e era solito bere il sangue dei nemici uccisi per aumentare la propria forza. Chi era questa brava persona? Io, senza che nessuno me lo chieda, vi racconto questa storia. No, lui ha fatto un tiro in storia e questo antico vecchio capo barbaro aveva questi cioè, senza che nessuno mi chieda niente, io racconto questa storia. A chi, cane pazzo? No, questo è Cavan, il capo barbaro che aveva la lancia di sangue. Centinaia di anni fa. Se dice il nome, ovviamente adesso collego. E in battaglia brandiva questa lancia macchiata di sangue ed era quest'arma che succhiava la vita da quelli che uccideva. Ok, adesso che mi dice questo, ovviamente la mia reazione è: ok, entriamo e riprendiamoci la mia lancia. Ma non puoi saperlo. Adesso sì, ha detto il nome di Cavan. Gliel'ho detto io. Non chiedo... puoi sapere cosa di che se l'evasivo ha ragione. Nessuno gli ha fatto domande. Oh, grande generale Kreval. È da tanto che non parlo infernale. Lei da che girone l'ha imparato? Dovresti guardare più serie TV in lingua originale per tenere allenata la lingua. Non ottieni risposta. Silenzio di tomba. Oh, oh. Vedo che il cane gli ha mangiato la lingua. Oh, gara di freddure, mi piace. Allora, io proseguirei, ma capisco le vostre necessità e vi aspetterò qui una volta che voi le abbiate espletate. Il legale buono che vuole spazzare via la malvagità dal mondo. Va bene, apriamo la porta. Ok. Chi la apre? Beh, qua io non è per, certamente per spazzar via la malvagità, adesso. Ma è pesante sta cazzo di porta da aprire. Come tutte le altre. La chiusa, vede, per la chiusa tre volte. La apro io. Va bene. È una prova di forza? Sì. Sì. Madonna, che idea del cazzo. 12. Fallisci. Vabbè, la riaprirò io. Anzi, ma no. Perché? Scusa, perché lo fa lui, cazzo? Io mi preparo. Bello, tipo, Giulio scemo di volire. Ragazzi, ma quindi... Sì, la voglio io. No, la lancia sarà mia. No, sarà mia. Tipo, sarà... Non lo so. Che nel senso del cazzo avete bisogno di qualcuno che faccia le cose. Ho già detto, la apro io. Aspetta, posso tenermi la porta come scudo? Sì. Non ti ha salvato prima. Eh? Cosa hai detto, Marco? Non ti ha salvato prima, perché ma prima non l'avevo esplicitamente detto. 29. Allora, questa è la tua prova di forza? Ah, io mi sposto, eh. Sì, è la mia prova di forza. Okay. Si è messa verbale. Riesci facilmente a riaprire di nuovo la porta. E... Okay, se tu ti sposti, allora mette Vardy, lì. No, no, rega, io stavolta sono lontano, l'ho detto. è lì di lato, dove l'ho messo io. Sì. No, Vardy, no, è più lontano davanti. Da lì. Ma che è più di lontano? Così il fuoco non ti arriva, però dai, cioè, puoi essere più lontano. Hai capito, Vez? Sta lontano così non vi dà il bonus. No, io sono lontano, rega. Ho capito la vostra necessità, però mi allontano. Dentro ci sono un mega sfortuna, appare all'orizzonte. Dentro ci sono i mega soliti tre mastini di primo. E come al solito tirate l'iniziativa. Bello tirare con vantaggio e fare uguale. 12, 4, 2, 17. 17. 10 di nuovo. Oh, che palle. 10 di nuovo. Io 7. Race 7. E ha fatto 2 di dado. Sì. Dove hai fatto? Meno 5 di dado. Possiamo aprire e chiudere la porta finché non tiriamo bene l'iniziativa? È uguale. Vardistan. Ah, devo te anch'io? Se vuoi. Beh. Merda, sei proprio il paladino peggiore. Ma paladino peggiore, adesso, nel senso, ci sta tutto, però capite anche voi che non fate, cioè, non dico cosa, fate sempre il contrario. Sai già che è l'arma di Dio contro Strad? Io non voglio dire niente di contro Strad, io sono mezzo, è un'ora che sto provando ad andare contro Strad, e voi state facendo altre cose. Adesso sappiamo che dentro c'è l'arma di Dio. C'è l'arma magica che mi ha fatto l'arma magica che serve a scemo. E va bene, ci sta, però l'armatura che serve a te va bene, l'arma che serve a me. Io l'armatura l'ho presa così lì, non ho fatto prendere danni a nessuno, mi pare. Cioè, quindi che cazzo volete? Erano i punti ferita temporanei che ti ha dato sfortuna. Potevano servirci anche da altre parti. Adesso io capito che voi avete tutti 150 punti ferita, io no, quindi ciccia. È tutta la cosa che sto facendo così, quindi dico, accetto che siete in 5 che fanno una cosa, però visto che tanto voi ignorate sempre quello che ho fatto io, adesso io ignoro quello che fate voi, direbbe Lanz, fate la vostra manovra. Noi abbiamo ispezionato tutte le tombe per vedere se c'era qualcosa che potesse essere utile a Strat. Fino adesso abbiamo cazzeggiato. Questa è veramente utile. Esatto, è l'unica in cui sappiamo che c'è qualcosa. Benissimo. Ok. Garrosh e Atanas vengono investiti dal soffio di uno dei tre mastini. Hanno vantaggio alla prova, perché uno ha la bara davanti, la lapide davanti, e Garrosh dovrebbe avercelo perché è un barbaro, vero Garrosh? Già, quindi grazie. Posso tirare 3 dadi? No, solo uno. Hanno fatto più di 17, ma sì. Sì. Ok, ho fatto 7. Con vantaggio. Ne ho fatto 11. Beh, quanto è distante? Abbastanza per non darti più 3. Di più. Più di quello che c'è nella mappa. me ne ricorderò. Ok, chi ha fallito il tiro prende 21 danni da fuoco. La risata malvagissima di Beth. Esatto. Non c'è mica problema, non c'è mica problema. Andiamo pure nella parte dove non passano i malvagi a riposare. Ah, no, aspetta. Ma infatti Beth, non c'è problema, indovina chi ha le cure. Beth. Io le mie le ho usate su di voi. Quel che potevo fare. Ma che fare. Dici? Hai fatto un riposo lungo? No, ah, no, hai fatto un riposo breve. No, 40 punti di leonenze. Io li ho usati, mi sa. Non mi ricordo se su Giulio. Di già, li hai già usati. No, riposo sì, io quelli non li posso riprendere. Se non con riposo lungo. Bene, 5. Garrosh, tocca a te. No, che cazzo dico? Atanas, scusa. Ha fatto di più. Infatti, ho fatto poco. Io da quando sono entrato che provo a tenermi le cose. Atanas? Arrivo. Ah, il bastino poi esce dalla tomba per andarvi in corpo a corpo. Posso fare come azione di lanciare, di spingere la cosa, la porta, sopra uno o due mastini in modo da bloccarli? Puoi provare a usarla come arma improvvisata o da fargli fare una prova di forza per liberarsi. Ma uso la mia azione per lanciargliela contro, cioè per lanciargliela sopra. Sostanzialmente è un prenderlo in lotta. Può essere, non so, dimmi tu come vuoi farlo. Sì, cioè se tu dici il mio intento è quello di bloccarli lì, sì, il mio intento è lanciargli o metterli sotto la lastra di marmo in modo che loro non si muovano, stiamo fermi. Mi sembra che si possa fare benissimo con una prova di lotta. Giusto. Chiaramente due sono ancora dentro la cripta e uno è uscito fuori. Quindi l'unico su cui puoi farlo. Posso chiuderla? Così facciamo un mastino alla volta. Vabbè, ma lo spacchiamo, quanta vita ha sto coso? Vabbè, ma facciamo un mastino alla volta, scusa. Vabbè, ma lo spacchiamo diretto, cioè se lo attacchi lo spacchi. Se gli fai un attacco completo lo uccidi, secondo me. Sì, ma poi becchi gli altri due. Vabbè, allora, ma poi cioè, dobbiamo ancora agire tutti noi. Siamo tutti, eh. Ho capito, quindi cerco di schiacciare gli altri che sono dentro. Con la lapide non ci entra non riesce a fargliela entrare dentro perché chiaramente non riesco. L'entrata è più stretta. Magari tienilo per il prossimo turno questa idea. Se escono tutti e tre allora li schiacci. Allora attacchiamo il nostro mastino. Vai. Classe armatura. Allora, 15. Però stavolta uso la spada magica in una delle due mani. La spada faccio 24 e 18 e con l'altra 22. Colpisce. Quindi faccio 7, 14 danni magici. E 9 normali. Ok, non ha differenza. Quindi hai fatto in totale 23. Ok. Dopo Atanas agisce un altro mastino. Questo esce dalla stanza e si mette a mordicchiare il buon Garrosh. Il mastino 19. Fa attacco 50. In morso. Ti manca. Garrosh, tocca a te. La polizia. 90. Può essere una buona idea adesso. No, aspetta. Scusami, dimenticavo che lui ha vantaggio, ti colpisce. Perché ha vantaggio? Perché i mastini hanno le tattiche di branco, quindi se attacca qualcuno di fianco, mentre ha un alleato di fianco, ha vantaggio. Quindi il suo morso fa 5 danni perforanti più 7 danni da fuoco. Dimenticavo che lui ha vantaggio. Perché ha vantaggio? Beh, perché lo uso io. Perché ti è mancato, è evidente. Ovvio. Non ti colpirebbe. Tu non sei in ira ancora, vero? No, no. Beh, no, vabbè, vai andati in ira prima di aprire la porta, mica stronzo. Non l'ho fatto io. Non ho ancora agito io. Vabbè, ho capito, però se sa che deve aprire la porta o è una testa non di cazzo. Non ho ancora agito. Lì. Oh, sì, non ho ancora una testa di cazzo, basta. Ho una testa di cazzo. Oh, un po' di rispetto. Non ho ancora agito. Capito, ma se tu vai in ira e dici apri la ora, oh, apri la ora. La prossima volta fallo tu, okay. Il barbaro. Dai, io vado in ira quando sono sicuro che ci sarà un attacco nel mio prossimo turno. A chi sta ora? Ora sta Vardistran. Devi aprire e dire conversiamo. Vardistran. No, metti che non riuscivo ad aprire la porta. Attaccato lì apposta, cosa vuoi che faccia? Con ira prendi. Ho provato a dire un'altra parte. Metti che lui non riusciva ad aprire la porta, poi toccava a me, io aprivo la porta e non dobbiamo subire un po' di danni. Devo dire. Capito? No, se fai una prova di forza con ira non, no, allora. Non la perdo. 1 e un 30. Colpito. Oh, c'è, che tiro hai fatto? È 19 più 11, ovviamente non faccio il crit. Quindi perché sta combattendo? Io lo spingo perché... io. Perché, vabbè, se vuoi io me ne vado, non è mica problema per me. Al 2 devo tirare. Io lo spingo io. 4, 8, 15 danni. Ma se allora se era lì, allora avevamo il più 3. Esatto. No, si è avvicinato. Prima era più distante. No, il più 3 non ve l'ha dato apposta. Per darvi una no, io volevo andare più lontano. Io stavo andando via sostanzialmente. Poi a un certo punto vi vedo e dico: vabbè, solito 24 della, secondo della colpo. Colpito. Ma quindi questo non va giù così, quindi perderemo un botto di danni. Allora, sì, devo ritirare tutte e due. Ehi, vabbè. 14 danni. Ed è il secondo attacco questo? Sì, 15 il primo e 14 il secondo. Morto. Sfortuna. E adesso mi becco i danni. Faccio due Eldritch Blast contro quello che è rimasto dentro. Sì. Guarda, sfortuna che invece era interessato che era 40 km, cazzo. Ma mi hai saltato? Ho tirato a meno degli altri? Ah, sei pari a Vardistar, non hai ragione. Vai. Garro. Aspetta il mio turno. Ok, sì, allora dopo di te c'è sfortuna. Boh, uno è già morto, non so se usare un hero allora. No. La vuoi o no? Io direi. È ancora un po' caldo con l'altro, ma... No, perché poi non riposiamo mai, quindi non... Quindi non vado in ira. Scusami, se non vai in ira adesso, che è la tua lancia che te l'hanno rubata. Benissimo. Primo attacco fa 17. Colpito. Colpisce. E sono 6 danni. La lancia non l'ha ancora vista, quindi. So che c'è, però. Sono 6 danni, il secondo è 15. Quindi prendo, giusto, giusto? Eh sì. Sai che io ti ho detto che c'è, non sai che magari sono stronzi. 9 danni, ho tirato bassissimo quei danni. Ok, e non è così, non avevo modo di caricare tipo facendo qualche passo indietro. Ingaggiato, sì, ingaggiato. Devi averlo già ingaggiato. No, sfortuna. Dai. Uso maledizione. Mezzone bonus contro il mastino che è ancora dentro. Che è ancora dentro? Ah, sono 3, no? Sì, sono 3. No, sono 2 adesso. Cioè, all'inizio erano 3, sì. Uno è morto. Sì, ma lo vantaggio lo stesso. Cioè. Faccio un 18. 18 e? 13. 18 colpisce. Ah, oh, che merda, 7 danni. 2 e 1 solo se mancano e non fanno critico, che metti che race. Ma quindi quello fuori è ancora vivo? Quello fuori è ancora vivo. Sì. Ah, sì. Proprio quello fuori. Uh-huh. Fatto 2 di dado, quindi 13. Lo manchi. Molto bene. Spostatemi, che non mi posso spostare. Dove ti vuoi spostare? È attaccato a lui, nel senso attaccato. Arcade in corpo a corpo, pensavo l'avessi, sì, sì, sì, avessi no, sparato. No, no. Il mastino all'interno vi risponde con un altro soffio. Vai, che vi do il più 3. Esatto, avete il più 3 di Vardistan. Tirate una prova di destrezza CD 12. Ma è la destrezza, giusto? Sì, quindi 17. Tu lo puoi fare. 16. 27. Direi che lo passi. 16. E direi che è l'unico, okay, che si prende bel 30 danni. No, sono 21. Se rimanevi lontano non li prendevi. No, sai, infatti. Ma hai contato il tuo bonus nel tuo tiro? Certo, 4 più 3, 7. Voi poi queste cose competenti potete fare, io sono io che muoio. Ok, Vardistran prende 21 danni, gli altri ne prendono 10. Alcuni 0. Però non lo vedo più sulla mappa. Cosa? Sì. Che fine ha fatto Race? Io Giulia è qua insieme, siamo praticamente uno sopra l'altro. Sono invisibile, ah, sono stato benissimo. Okay. Io Giulia quanto sono? Infatti non so neanche se... Sei a 107. Chi ha 107? Garrosh. Dio, che cosa hai fatto? Ed esce dalla cripta. Dietro di lui vedete spuntare dalla tomba uno spettro. Ecco, questo potrebbe essere un problema. Adesso è il momento di chiudere la porta. Uno spettrone. Vabbè. Minchia, ma non passa dalla porta lui. Vabbè, tanto è incastrato. Tanto è incorporeo, può essere grande quanto gli pare. E lo spettrone ha un aspetto di questo uomo temprato dal fuoco di mille battaglie. E, letteralmente è tutto bruciaustionato. Fico, vedete che appunto lui sorge dalla lastra di marmo sopra il quale era... giaceva il cadavere che gli apparteneva in vita e i cui resti sono solo dei brandelli di ossa inceneriti. Ma c'è una cazzo di lancia da voi? Sì, la sta brandendo. Anzi no, scusa, no, in realtà la lancia giace tra i resti del suo corpo. E i muri di questa stanza e il soffitto sono ricoperti di bruciature e di murali che raffigurano delle legioni di fanteria e di cavalleria che si scontrano sui campi di battaglia. Oh. E il vostro amico quindi è un Wraith, un non morto di taglia media. E toccherà a Atanas, perché il mastino numero 1 è morto. Allora, 17. Ma secchiamo prima i mastini. Quanti danni ha preso il mastino che ha davanti? Un po'. Non so. Qualcuno. Ma sta ancora abbastanza bene. Vabbè, facciamo io. Stavolta non uso più l'arma magica, estraggo la spada. Vediamo. Allora, 16 e 25. Colpisce entrambi. Quindi con questi sono 23 danni. 23 ancora, okay, in piedi, sì. È ancora in piedi. È quasi allora morto. Anche l'ultimo attacco 26, capito. Sono di 15 danni. Segato. Dopodiché sta a lui che esce sbraitando insulti in infernale. Io condivido tutti. Esatto. Sei rimpicciolito però. Ora sei un po' rimpicciolito. E lui che cosa fa? Ha il suo attacco che è Life Drain. Ma voi, almeno Race, mi insegni che stai brandendo la Sunsword. Quindi lui ha svantaggio agli attacchi. Ma quando sono forte. E per fortuna, perché uno è un 20, ma l'altro è un 4. Hai anche, un simbolo sacro in tasca. Non è che magari... E per fortuna, perché uno è un 20, ma l'altro è un 4. Direi 2, perché anche le reliquie di Sant'Anna. È ben equipaggiato. Lui. Quindi non riesce a colpire Atanas. Il secondo mastino attacca Garrosh. E lo manca. Garrosh, tocca a te. E niente, continuo a smazzolare il mastino, te lo finiamo. Credo che questo non sia stato colpito ancora. No, ah, questo è l'ultimo. Questo è stato colpito dall'Eldritch Blast di Sfortuna. Ma è quasi a posto. Allora prendo l'attacco di opportunità, ma prendo la rincorsa, così gli faccio un attacco extra. Lo prendi da entrambi, prendo l'attacco di opportunità. Nostro, guarda che pigli anche quello dal Vrate. No, infatti no, io scemo, Io allora. Ah no, rimango lì. Scusa, non volevo. Critico? Come dici? Critico? Quindi raddoppio anche la forza, non mi ricordo mai. C'è un critico no, solo il dado. No, solo i dadi. Due dadi. Tira il doppio dei dadi. La buona vecchia. Non è nerfato su questa cosa. 11, 15. Ma non è proprio fighe perché sei un barbaro. Tipo lanci. Ah, bravo, un dado extra. Bravo. 22. Vedi che mi sto addormentando, mi chiedo scusa. 22. 20 danni in totale. Col primo attacco. Non so se muore magari. No, ancora vivo. Allora... 22, quindi colpisco. E sono solo 7 danni. Okay. Quindi 29 in totale. È ancora vivo. Sì. Vardistran. Bravo. Un colpo al bastino. Se... 21. Colpito. Vai. 14 danni. Morto. E purtroppo ora mi tocca andare contro quell'altro. Arretrare. Ora mi tocca lasciarvi. Si era parlato solo di mastini, rega, io vado. Cazzarola. 30 a colpire. Con cosa l'hai colpito? La spadone più 2, non si può? Certo, si può. Niente, tiro i danni. Uno ritiro, meglio. È un 15. 15 danni. Sì. Ok. Sfortuna. Io sposto la maledizione come azione bonus dal mastino che è morto allo spettro e tiro due Eldritch Blast. Un 16 e un 14. Colpisce. È bello che la sessione finisce, che tutti arriviamo quasi alla tomba di strada. Non ho capito, che io ho provato a raggiungere dal... la classe armatura 13. Ok, 19 danni. E infatti dovevo fare esattamente il contrario, dovevo dire, ragazzi, ma perché non guardiamo ogni singola tomba entrandoci dentro? Esatto. Ormai dovreste averlo capito. Basta, è qui Strad, forza. Ray, stocca a te. E attacco con la spada 24. Colpito. Immagino sia un non morto. Immagini bene. Quindi io attacco con, a due mani, per cui è un di 10, sono 9. Un di 8, 11. E... è furtivo. 24. 29 danni. 29. Quindi radianti. 63. È molto provato, ma sta ancora fluttuando. Il mastino è stato ucciso, quindi sta ad Atanas. Dai, riestrango la mia spada. Una spada corta con la luce, a cui mi dimentico sempre bonus più. E sono 28 e 20. Colpito. E quindi sono... Che schifo. 1. Doppio 1. 2, 3, 4 più 14, 18. Direi che l'hai ucciso. Oh. Visto, ci Madonna, voleva tanto, rega. Non ho mai fatto uno scontro così easy. Beh, non ho capito. Non so perché il pallino sia di livello, no? Ah, niente, rega, perché ho perso un quarto dei miei punti ferita. Okay. Ma abbiamo recuperato. Vabbè, ma nel grande punteggio, ah, certo, cioè la media totale dei punti. Vabbè, stai zitta, c'è l'armatura dell'arma magica, grazie che parli così. No, beh, soprattutto adesso potrà fare danni completi a creature. Ma scusa, non avevamo mille armi adesso. Sì. No, lui era l'unico che non l'aveva, forse. Esatto. Vabbè, dai. Bene, in mezzo alle ossa bruciacchiate del generale Kroval ritrovi recupera la lancia. Lancia di sangue. Bene. Io dico, spero ne sia valsa la pena. Mi riesce a dire? Io mi volto verso Garrosh e dico, non c'è di che. Debole. Quindi cosa fa? Più uno. No, non è una lancia più uno, è una lancia che quando riduce a zero il bersaglio che hai attaccato con un attacco in corpo a corpo, recuperi, anzi acquisisci 2 di 6 punti ferita temporanei. Abbiamo preso sto Garpez qua. Però l'arma magica. Vuoi fare tu meno magico? Lo faccio già. Sì. Ma non è male, metti che uno va in battaglia, ci sono anche delle merdine che muoiono subito. Guadagni 2 di 6 temporanei, essendo un'arma magica, sì, sì, temporanei. Guadagna 2 temporanei, ma solo una volta, non è tutte le volte cumulabile. Che porti a zero tutte. Il bersaglio. Sì, non sono cumulabili, ma ti rispawni al massimo se prendi. Prenditi degli insetti, mettili in un sacchetto e poi colpisci con la lancia. No, nel senso, che avessi ucciso un mastino, poi un altro lo facevo 3 volte, devi darmi 2 di 6 o solo la prima? No, lo faceva ogni volta che riduce a zero, ogni volta, ti dà 2 di 6. E tu conti nel momento in cui hai il bonus più alto, quindi non sono accumulabili, sì, non sono accumulabili. Però li tiri tutte le volte. Vabbè, l'importante è che puoi fare danni pieni, dai, ma... è la cosa importante. No, non ho capito, scusate. Nel punti non è insomma, non tra di loro, te tengo sempre uno. Okay. Tanto quando affronteremo Strad sarà Strad, forse. Per curiosità, il 36 a questo punto chi c'è? Giusto, sono d'accordo. Non l'avevo già scritto. Ah no, nel 36. Nel 36 c'è. Questo è morto. No, giuro che non l'apro. No, adesso l'apro io e prendo qualunque cosa e mi conficco per dire. Voglio un meme. Con Giulio che fa, e per curiosità in 36 cosa c'è? La cosa che a me fa veramente cazzare è che in realtà noi saremmo andati avanti alla fine, perché comunque sia il 36 l'avete già visto per terminare questa cosa, ma cazzo, è andato di un secondo, io solo sapere il nome. No, ci eravate già passati davanti, è che il nome è stato cancellato da dei segni di zanne. No, ce n'è una però che non sappiamo. La 39, vabbè. Allora ti ci metto scritto. Vuoi sapere, vabbè, tanto no, ormai sono quasi alla fine. Basta, andiamo avanti. Adesso vado alla 39. Vado c'è già scritto cosa c'è nella 39. Che c'è? Bucefalo. Cavallo di Alessandro Magno. È il cavallo di Strad. Sì. E vabbè, apriamo, rega. Scusa, perché non volete aprire? Adesso mi dite perché non lo volete aprire. Merda, Vezza, non posso andare diretti alla tomba di Strad. Ah, non lo volete aprire questo? Com'è che non lo volete aprire? Adesso ognuno di voi mi dice perché non lo vuole aprire. Hai 20 di forza. Atanas, cominciamo da te. Perché non lo vuoi aprire? Non abbiamo tempo, ok, bene. Questa è la risposta di Garrosh. Tu, Atanas, perché non lo vuoi aprire? Dimmi. Perché se c'è il cavallo di Strad è un incubo infernale. Potrebbe farci dei danni, ok, sì. Race, tu perché lo vuoi aprire? Ma penso che comunque alla fine a una casa così grande è complicato da pulire. E da riscaldare. Onesto. E da riscaldare. Sfortuna, tu perché non lo vuoi aprire? Beh, dalla minimappa si vede che è vuota. Questa è la giustificazione migliore. Comunque sulla lapide c'è scritto Bucefalo, il cavallo meraviglia. Possano i fiori crescere ancora più luminosi ovunque lui galoppi. Magari un cavallo più due, allora forse non è lì. Si trova la calcatura. Ah, la porta di questa cripta è più larga di tutte le altre. Quella del cavallo. È più alta, è alta 8 piedi e larga 6. Visto? Prendiamo più Giulio, persone, prendiamo gli infilzati. Giulio, ti sfido che non riesci ad aprirla questa porta così grossa. Ok. Atanas, non ce la farei mai ad aprirla. Va bene, direi che... con questa stilicidio... Vabbè, no, dai, apriamo e arriviamo alla barra di strada. Anche se c'è anche il 40 che non abbiamo visto. Dov'è il 40? La cripta numero 40 è qua nell'angolino. È vero. L'angolino. Ah. 40 sembra piena, Sopra c'è scritto Tauzaul Eris, l'ultimo della sua stirpe. Vuoi vedere l'ultimo? Dovete vedere l'ultimo? Fate un tiro in storia. Tiro di storia. Ah, adesso ci proviamo anche il problema. 8. Ah. Ragazzi, provaci tu. A far cosa? Un tiro in storia. No, più in storia, rega. Siete voi. Vabbè, ma lui non hai meno, però. No, ma qualcosa. È sfortuna che ha più in tutto, Se volete ci provo io. Sì, ho intelligenza, quindi faccio cagare in quelle cose. Sì, però se ci provo io, faccio un tiro in storia. Ma no, ma quelli di conoscenza devi averli, no? Cacca, peccato. Vai, tiro io, storia, 6. Non ne hai mai sentito parlare. Beh, c'è solo un modo per... Vabbè, allora perché... per capire meglio. No, proviamo però a pensarci, l'ultimo della stirpe. L'ultimo della stirpe, ragazzi, non lo vogliamo aprire? Beh, apriamo sta cazzo di tomba. No, io mi sposto. era il tentativo di così inverso. Questa la apro io. Cioè, noi dovevamo andare a uccidere per il matrimonio. Si siamo messi il fascino del loot. Riesce ad aprire facilmente 26. La lapide della cripta. Sul solito piedistallo di marmo giace questo scheletro avvolto in perché ci sono tanti tessuti perché mi sto divertendo per comodità, e alle pareti, alle altre tre pareti ci sono incastonate tre torce che si accendono nel momento in cui apri la stanza. Sembra umano lo scheletro. Esamini lo scheletro? Vediamo. No. Come no? Se da dove sono sembra umano. Da dove sei sembra umano. Cioè, come dimensioni è normale. Sì. Quello di... Dai, taglia media. Contro lo scheletro. Due gambe, due braccia. Ok, chiedo a Race se, visto la botola di prima, posso entrare sicuro. Non te lo vorrei dire. Come? Sei già dentro. non sono dentro, ho aperto la porta. Sei già dentro? 14. Quanti anni vostri ci sono lì? Intorno, sì. anzi no, 13 in percezione. Quando devi aiutare vedi che toglie. Ok. Ti accorgi che lo scheletro e le ossa sono in realtà delle riproduzioni di gesso. Ok. Sono le decorazioni di Halloween. Questo è lo sgabuzzino. Allora, io quando mi chiedi se posso entrare, ti dico che forse... pioverà. Non lo so, cioè, quando ero giovane pensavo di cambiare famiglia. No, no, non ti ho chiesto se si può entrare, ti ho chiesto se puoi controllare se è sicuro. No, non te lo chiedo. Quando ero giovane pensavo di cambiare famiglia, però alla fine il gufo, no, il pipistrello è il famiglio migliore. Ma hai interpretato quello che ho detto, non te lo chiedo, nel senso, puoi per favore controllare? Cioè mi giro e dico, dai, controlla che non ci siano trappole come di là. Io ti dico così, e detto questo io entro, e mi giro e vi dico, ma rega, queste non sono ossa vere, sono finte. Io? E con questo bene, andiamo da Strad. Ci salutiamo. Pat che è arrivato da Strad prima di noi. Pat che già si è scappato. È scappato. Scusa, arriviamo almeno alla tomba di Strad, dai. Va bene. Arrivate davanti alla tomba di Strad. La vostra strada. La vostra strada è bloccata dalla saracinesca che blocca l'uscita o l'entrata, a seconda di dove. La apriamo. Prova di forza. Vabbè, prossima... dentro. Aiutato. No, aspetta, non... aspetta, scusate, c'è un lucchetto. No, sì. È una saracinesca che si alza e si abbassa. C'è un meccanismo da qualche parte. Sarà, esatto, sarà un meccanismo. È probabile, ma non lo vedete da dove siete voi. Vabbè, la apro. Investigation. Ok, investigation. 17. Okay. Fallisci. Controllo. Capite che dovete aprire la tomba numero 3, tipo indietro ad aprire una tomba. Vabbè, facciamo la prossima sessione. Sì, 17, niente. Io ho 20 di investigation, quanto fa? Che cosa investighi, scusa? No, io non ho fatto un meccanismo per vedere la dove si aziona. Sfortuna l'ha fatto. Il pipistrellino a guardare dentro? Sì, ma anch'io avevo fatto investigation. Non avevi fatto una prova di forza? No, la grata, non avrei fatto 17. Vediamo oltre, però hai detto, vero? Cazzo. Sì. Avevo capito quindi... che la voleva alzare Atanas, invece no, aveva fatto investigation. Sì, sì, perché Varri sarà l'ultimo e fai un investigation. Ah, non avevo capito. Se no poi dice che non facciamo quello che dice. Infatti l'ho detto io come, non come il cosa c'è? Varri ha detto, potremmo guardare, colpite questa porta! Esatto. Cosa c'è lungo la parete della saracinesca, cioè a destra e a sinistra? Dove siete voi? Niente. Ma quindi l'investigation, vabbè, quindi le investigation non risolvono nulla. Quante sono larghe le maglie di Stagrato? Fai conto, saranno, lasceranno dei buchi di 5x5 cm. Il pipistrellino ci passa. Vabbè, lo faccio entrare. Ok. E gli faccio perlustrare l'interno per vedere se cerca leve o roba del genere. Quanto è bello se invece dobbiamo trovare la leve dentro le tombe. Devo trovare. Abbiamo aperte tutte le tombe. No. Abbiamo aperte tutte. Però il fatto che quello scheletro ci sta, lui torna qua e poi se l'apre lui, vabbè. Ma anche perché lui non ha bisogno di aprirla, perché passerà attraverso. Sì. Ma il fatto che quello scheletro là sia finto potrebbe aver senso. L'alcova. L'ultima messa da parte, diversa dalle altre. Facciamo la prossima sessione. Sì, ci sta. Ma in realtà non ne abbiamo aperte molte. Okay. Allora, il pipistrellino vede che all'interno ci sono, oltre alla tomba, alla bara che vedete in mezzo alla terra nuda, tre alcove in fondo alla stanza, e dietro l'angolo entrando a sinistra c'è una leva. È lontana più di 30 piedi da dove siamo noi? La leva? No, è a 10 piedi da voi. Allora la apro. Qualcosa di più. Magica. Tira la leva. Ok, tiri la leva e si alza la saracinesca. Io uso mano magica per fare un applauso. Per richiuderlo. Pensavo per richiuderlo. Anch'io all'inizio pensavo per richiuderlo. Quindi abbiamo aperto, siamo dei boss. Avete aperto la tomba. Devo fare sempre tutto io, cazzo. Oh, siamo già da strada. No, ci abbiamo messo poco. Siamo una tomba in strada. Sì, nel senso, siamo già qui. Sì, dopo dobbiamo fare lo scontro con Radi. Scontro con... ci avrebbe ieri che stavamo cercando tutte le tombe. Potevamo metterci molto di più con tutte queste tombe. Siamo stati magnani. Io le ho provate tutte. In realtà siamo stati perfetti, perché a mezzanotte spaccata apriamo, siamo dalla tomba di Stasi. Io le tombe le ho provate tutte. Va bene, dai, direi che a questo punto ci possiamo interrompere. Sì, direi di sì, dai. Va bene, dai. Allora, grazie per averci seguito, chi ci ha seguito, quindi noi che ci siamo seguiti. Quindi grazie a tutti in questa location, Andrea che ci ha commentato. E... però YouTube è più figo, dice. YouTube è più figo, oggettivamente, lo possiamo dire. Però è meno... è vero, cioè sì, ogni tanto abbiamo sempre gente che non ci guarda, quindi ci possiamo pensare, dai. Upgrade Twitch. Allora, vi diciamo che ci potete seguire sui nostri canali social, Tycoons & Dragons, MGDR, continuate a farlo. Ci sarà un episodio della maledizione di Katta che deve uscire sul podcast nei prossimi giorni, permettendo... vabbè, no, in realtà in ogni caso. E... oddio, addirittura c'è la sfregata proprio violenta adesso. Cioè, è pura ASMR. E niente, diamo appuntamento ai prossimi episodi, sempre con noi di Tycoons & Dragons. E niente, grazie per averci seguito in questa serata un po' particolare, dove non siamo riusciti a fare la nostra solita diretta Facebook, ma non vi preoccupate, perché comunque e in qualche modo lo pubblicheremo sulla pagina, quindi avrete l'occasione comunque di rivederci se volete farlo, e soprattutto di comunque Facebook è online. Sì, ora è tornato online, e vabbè, giusto appunto, se riesco lo posto. E buonanotte a tutti e alle prossime. Buonanotte. Con Tycoons & Dragons e Rippo GDR. Ciao. Allora, qua. Non potrai riconnetterti. Sì. Rimaniamo per lunedì anche alla prossima. Direi di sì. Ciao anche, sì, amici del podcast. Alle prossime.